Ci tengo i ragazzi per un viaggio senza eguali, con le voludica 24 andiamo nei campionati, dall'Italia all'Europa in un balzo e senza rete, con la palla deve ma la testa tra le stelle. Euroludica è la radio che fa gol con la musica. Euroludica è il calcio giocato in chiave ludica. Che un fallo, noi parliamo d'altro ancora. Da piatti tipici ai ritmi che l'anima mora. E se il calcio è poesia, noi siamo i suoi poeti. Correte in radio, i campioni siete voi. Euroludica, Euroludica, è la radio che fa con la musica. Suona il gioco, si fa duro. Noi cambiamo gioco con uno stile duro. Dalle donne alle leggende, prenditi alle verità. Euroludica 24, la partita è già qua. Euroludica, Euroludica, è la radio che fa gol con la musica. Euroludica, Euroludica, e il calcio giocato in chiave ludica. Siamo ritornati ancora una volta qui su runtimeradio.it, la nostra trasmissione meravigliosa per seguire insieme a voi la partita dell'ultima speranza. Ciao Michela. Ciao, la speranza di Escobar. Escobar, esatto, la speranza di Escobar. Non ricordi, era pure quelli della telecronaca, la speranza di Escobar. Sì, ma avvicinate però al microfono. Ho capito, ma io purtroppo con queste limitazioni vieni fisiche. Vieni qua, se no vai da Marco, eh. Che con Marco vi si sentiva meglio, insomma. Walter Sbano! Ma di nuovo, cioè, restiamo qua, ma. Potrebbe essere l'ultima. Ma guarda, no, io non sono così ottimista. Perché... potrebbe essere l'ultima, ma c'è il rischio pure che. No, dai, una l'abbiamo vinta. Una l'abbiamo persa. Se l'Albania non fa uno strano colpaccio con la Spagna, passiamo da seconde alla peggio da ripescate da terze. Ma passiamo. Quindi se passiamo per secondi, giochiamo sabato alle 18 con la Svizzera. C'è andato pure bene. Capito? È quello di quello c'è che c'è il rischio che tira Bugio. Sai come finisce? Che poi si ritrova un finale. Esatto. Marco Gualdi. Allora, a me hanno assicurato, innanzitutto vi saluto, mi hanno assicurato che questa era l'ultima serata. Poi io. No, perché il tuo contratto scade. Il contratto scade, sì, mi hanno pagato in simpatia. Ah, beh, allora. In simpatia e visibilità. Come di solito si. Non si nota la differenza col solito, però. Ho capito, ma probabilmente devono. Che c'è? Che è successo? No, no, ho levato, sono casino, ho messo la base normale. Perché c'era pure quella normale. Allora, oggi siamo tanti, siamo solo noi, però abbiamo un microfono in meno, quindi Michele è qui accanto a me e litigheremo per il microfono. Poi lei non ha la cuffia, quindi vabbè, almeno la serata prenderà una piega, perché sennò altrimenti c'è qualcosa di interessante. Io ho 30 notizie sulla Croazia. Ok, adesso ogni tanto, per i miei gusti 29 di troppo, insomma. Perché ricordiamo che questa sera gioca di nuovo l'Italia. Marco, la formazione dell'Italia. La formazione dell'Italia è quella classica con Boniek. Ma poi è polacco, scusa. Ah, polacco lo dice, cioè, scusa, perché se te ne esce lei e dice polacca alla gente. No, insomma, lei era polacco. Ma sembra una cosa carina da dire, insomma. Cioè, vabbè, poi c'è Pierkovud. Pierkovud almeno era italiano. È italiano, anche se dal nome. Van Basten. Van Basten, certo, Van Basten. Che è olandese. non è olandese, è Van Basten di su, del nord, nord Italia, del nord Italia. Poi so che in attacco c'è cioè Del Piero. Facciamo una cosa, questi inni a me mi sembrano più uguali. Hai visto Luca Toni? Hai visto Luca Toni? Walter, la formazione della Croazia. Allora, so per sicuramente il maresciallo Tito. Ma nel frattempo non è stato promosso. Ma studerà Gelanti. Ma aspetta, no. Ma maresciallo Tito era jugoslavo. Vabbè, ho capito, però se vai a vedere. Allora, Milena Vukotic sicuro, perché pure lei di origine. Ci sarà Nina Moric sicuramente, lei per forza, se il Corona non si incazza, e basta. Penso poi, che si possa, basta, sì, si possa giocare con Nina Moric, insomma, ancora, sì, volendo ancora matta come il cavallo, sì, sì. Poi comunque De Guoglio pure le plastiche, insomma, ci sta, e poi con lo spirito Sinisa Mihajlovic, Simone lo vorrà ricordare, che era serbo però. Vabbè, ma tutta ammazza è tutta una razza, ma dai. Tecnicamente è nato in quella nella regione che adesso è la Croazia. Poi se lui era di Beograd, era di Beograd. Secondo me, se tipo gli fai questa affermazione, scende da dove stai e ti dà un sacco di botte. Secondo me sale da dove stai. Non so se sei lontano. Scende dalla barra, guardi pure dall'altra parte. Scende da dove stai e ti dà un sacco di botte. Perché sta al quarto piano del fornetto, insomma. Come lo vuoi? Come lo vuoi? Abbassarlo, grazie. Va bene. Ok. Grazie. Okay. Grazie. Allora, intanto diciamo una cosa sulla Croazia. La Croazia questa è a fine generazione, perché la generazione di questa Croazia praticamente sono tutti un po' vecchiotti, hanno finito il loro corso, quindi poi sono scaduti, vizi. Sono scaduti. Tra l'altro, da quando esiste la Croazia, dal 1994, l'Italia non ci ha mai vinto. Ma non è nato più nessuno in Croazia. Non quindi voglio dire, per statistica. No, saranno altri giocatori, però quelli forti erano questi. Cioè. Ah, ecco. Per statistica, prima o poi deve succedere. Che vinciamo. Poi dice Michela Marche, scusa, non ne sono nati altri. Beh, perché in Italia ne sono nati? Guarda con chi stiamo. Cioè. Guarda qua. Donna Rumma è giovane, ha 25 anni. Donna Rumma, giustamente, prende una battuta che ho sentito oggi da Pixel Deb. Spalletti gli ha detto agli altri giocatori: se gioca in 11, non solo il portiere, che poi è costretto a farsi segnare. Perché giustamente prima o poi no, è costretto a farsi segnare, è costretto che lo segnano i suoi compagni di squadra. Se proprio vogliamo essere felici, ottimisti e obiettivi, Spalletti, se non ho capito bene, metterà in campo l'11 con prima punta Reteghi, mentre Chiesa resterà in panchina. Reteghi. Reteghi? Sto cazzo! Reteghi. Tra l'altro, ricordiamo anche che ci sono 20.000 croati e 10.000 italiani. Ma gli italiani hanno detto: ma chi ce lo fa fare? E c'hanno anche ragione. Ci abbiamo ormuto la pagare. Tra l'altro, ci abbiamo. Per caldo, ma chi vese in cura? Tra l'altro, devo andare a Francia. No, se devo spendere i soldi, li spendo per vedere una partita di Yannick Sinner. A Mignotte. No, vabbè. Oh. Tra l'altro ci abbiamo anche un collegamento da un inviato proprio dalla Germania. Meno male. Ma io lo so. Avevo capito che quest'anno non c'era budget, quindi non c'era neanche Dietrich, non c'era niente. Invece, vedi. No, Dietrich c'è stato nella prima puntata. Ah, poi ok. Perso. Ah, che non c'era. Fatto io. La brutta fine di Dietrich, insomma, stava a pochi cessi. Comunque, in ogni caso, vabbè, è un mestiere dignitoso. Che deve fare in incognito, però. Vabbè, per qualche ragione non abbiamo il contributo. Allora, se potete, intanto io vi comincio a raccontare notizie. Vai, racconta. Allora, ma io spezzerei, Michela, io aspetterei. Spezza. Ma sono 30 notizie. Ho capito, ma qui voi verso fine del primo tempo già saremo stanchi, quindi. Forse è meglio tenersele per dopo queste cose, quando arrancheremo verso la fine della partita, insomma. Non lo so. Poi se vuoi dare una notizia, dalla. Beh, dai, una primizia. Una sola. Allora, lo sapete che tra i primi abitanti della Croazia si annoverano i dinosauri. Ah, che bello. La scoperta delle loro impronte prende vita nel 1925 grazie all'industriale austriaco Vakofenecht. Quindi neanche in croato. Sull'isola di Veli Birun, parco nazionale delle isole Brioni in Istria, che mi piacerebbe visitare un giorno. È proprio l'Istria a custodire i reperti più importanti. Istria, ricordiamo che è italiana, cioè tornerà in Italia prima o poi tornerà in Italia. Certo, fra poco quando cominceranno a saltare i confini, fra un po' vedrai che pure la nostra piccola invasione la faremo, insomma. È il 1992 quando in località Bale, non lontana dalla meravigliosa Rovigno, un sub italiano trova delle ossa di dinosauri sui fondi marini, unico caso documentato al mondo. Hai capito? Interessante. Però la Croazia, ricordiamo che c'ha due caratteristiche fondamentali. ci si va a piano al mare, mm-hmm. e una volta costava poco, oggi costa un po' di più. Però costa sempre meno l'Italia, che insomma. È come la Croazia. Si dice Monte di colore, Michela. Non si Montenegro usano più. Si chiama. No, non si dice più quella parola. Sapete, questa cosa mi ricorda una cosa di mia madre quando era molto giovane, che lei non diceva via Magna Grecia, lei diceva via Mangia Grecia, perché pensava che fosse una parola romana. Quindi, insomma. Comunque, ragazzi, Modric accanto a Donnarumma fa impressione, cioè 80 centimetri di differenza. Sembra un bambino, il bambino Modric. Che miseria. Che non si, per l'occasione non si è lavato i capelli. Comunque ci abbiamo l'inviato, lo sentiamo l'inviato. Sì. Però proviamoci, dai, io sono ottimista. Ciao a tutti, sono Walter Vannini, vi saluto dalla ridente bassa Baviera. Purtroppo in questo periodo è inevitabile essere afflitti o comunque toccati in qualche maniera da questi campionati di calcio, che mi spiega il pizzi essere europei. Io pensavo ci fosse il Brasile, perché avevo visto uno che si chiamava Ronaldo, quindi questo vi dà il mio livello di competenza. Beh, non c'è Ronaldo, però. Comunque il punto è, non me ne è mai importato nulla del calcio, continua a non importarmene nulla quando sono costretto per qualche motivo a vederlo. Tipo l'altra sera che ero seduto per bermi una birra e c'era questo mega schermo, c'era dei tizi in bianco che correvano dietro dei tizi in rosso e poi viceversa. Uno mi è stato detto essere il Portogallo, gli altri non ricordo chi fossero. Per me rimane uno sport di una noia mortale, forse il terzo dopo il curling e il football americano, ecco, una cosa di questo livello. Mi toccano i campionati di calcio perché il campionato di calcio è il momento in cui l'italiano sente il bisogno di, purtroppo, di esporre il bandierone, e lo espone a cazzo, e questo mi dà un grandissimo fastidio. Voglio dire, anche nella peggior bandierazza cinese da 2 euro che compri allo stadio, se guardi ti accorgi che lungo il lato verde c'è o il canalino cucito per far passare il cordino, o addirittura nei modelli più di lusso le asole per agganciare i ganci. Quindi perché cazzo mi devi appendere il bandierone dal lato rosso? Punto di domanda. Sono quelle domande che appunto non stanno né in cielo né in terra, fanno parte purtroppo di quella assoluta mancanza di dignità e amor proprio che hanno gli italiani, e che ci condanna a essere un popolo di paria, invidiando ad esempio, non so, i tedeschi. Cosa che quando uno viene qui si accorge che i tedeschi sono un popolo sostanzialmente ancora abbastanza barbaro, se proprio vogliamo, nel senso che se tu prendi un tedesco e gli dai un maiale, il massimo che riesci a tirarci fuori è un Würstel. E ci siamo detti tutto. Purtroppo noi italiani non ce la facciamo. Per come ci prendi, da ogni lato che ci guardi siamo più avanti, e però non ci crediamo, non riusciamo a farci niente. Abbiamo questa venerazione per qualunque cosa sia non italiana, che ci porta a svenderci ovunque, dovunque, comunque. Cioè io ho visto, vi giuro, l'ho vista da lontano perché non mi sono avvicinato, l'ho vista soltanto sul menù. Ho visto un ristorante italiano che faceva un festival dell'amicizia italo-bavarese, servendo i piatti della cucina italo-bavarese, fra cui la appunto famosa pizza con sopra il Würstel bianco. E da Monaco è tutto, saluti e buona partita. Mi dicono che stasera gioca l'Italia, non ho idea con chi, comunque vada, vabbè. Il mio pronostico naturalmente è che ci salviamo per il rotto della cuffia al 94esimo, e con rotto della cuffia intendo una botta di culo spaventosa. Ciao. Io pensavo proprio un rotto. Comunque pizza, hai visto, tiro fuori bandierone in cantina da 4 anni. Tiro fuori il bandierone in cantina da 4 anni, attaccato sul balcone, spero di non fare danni. Il riassunto è che praticamente lui dice che non gliene frega un cazzo del calcio, e anche noi qui condividiamo, e che gli italiani tirano fuori la bandiera solo quando ci sono le partite di pallone, però lo fanno dalla parte sbagliata, cioè dalla parte del rosso. Io non sono convinto, cioè non sono, è vero, questa cosa non c'è, scusami, no, io non sono convinto e d'accordo con l'affermazione che il calcio non è importante. Secondo me è importante, va assunto regolarmente, bevete l'acqua del rubinetto, esatto. Va bene, quindi vedi, c'è anche raccordo al cane. Esatto. Io volevo invece approfittare per salutare Mr. Zero, che ha staccato prima dal lavoro appositamente per farsi 45 minuti di autostrada e poterci ascoltare. Ha fatto bene. Anche perché, ma perché c'è la tua radio, no? Perché, esatto, voglio dire, cioè, che stai a fare al lavoro durante la partita? Manca la sigla di Dada Nightmare, ha fatto una puntata, io lo dicevo, ma è una puntata di Dada Nightmare. Hai ragione. Ma comunque, Michela, tu lo sai che c'è stato un problema col discorso della Croazia, perché noi comunque alla fine della partita ci frega fino a un certo punto, no? C'è stata praticamente sti influencer, ma adesso la vado a ricercare. Parlate voi nel frattempo. Bello che ci ammolli la cosa senza neanche avere avviso. Allora, comunque, vi dico la seconda notizia. Dici la seconda. No, niente, va a far culo. Eccola qua. Lei si chiama Pizzi, parli al microfono. So che è difficile perché deve pronunciare un nome arcano. Lei si chiama Ivana Knoll. Vabbè, come Knoll. Knoll, che praticamente. Aria di rigore. Attenzione. No, niente. Era famosa, è diventata famosa per quei video virali della ragazza che spazzava gli spaghetti. Vabbè, ma in Italia e che è stata odiata praticamente da chiunque. E praticamente durante questo europeo, essendo lei un influencer con 3 milioni di follower, praticamente si presentava allo stadio con questi, siete fuori, insomma. Quindi e praticamente è stato uno spot per la sua nazione, dicendo: venite qui in Croazia perché ci sono le donne belle come me. Poi però a 30 anni diventano delle matrioska. Ma questo ragazzi, intanto Donnarumma si è guadagnato la stozza di pane. Donnarumma ha fatto la prima, il primo 5.3 della serata, perché giustamente lasciano libero che il croato che boom tira da questi 30 metri questa botta. E devo dire che Donnarumma ha dovuto insomma impegnarsi abbastanza, perché la palla era sul 7. Vabbè, sull'8, 50 metri su, dai. Vabbè, però dai, intanto calcio d'angolo e vediamo che succede. Sì, no, era una calcio d'angolo che ci spiega Michela. Assolutamente. Allora, adesso quello sta tirando la palla dentro l'angolo. Sempre questa cosa del tirare, no? Sì, lanciare la palla dentro l'angolo. C'è lui che lancia la palla dentro l'angolo. No, che quella è pallacanestro. La palla deve stare dentro l'angolo e poi può essere lanciata. Lanciata, quindi crossata all'interno dell'area. All'interno dell'angolo, e poi tutti si mettono davanti e parano il. Cioè, qual è lo scopo del calcio d'angolo? Menasse davanti alla porta. Cioè, non quello di fa gol. No, menasse davanti alla tipo porta. Gli attaccanti devono fare gol, i difensori devono difendere. No, se menano. È un po' tipo a volte, rugby. A volte anche un po' così, sì. Diciamo. Quindi non sei d'accordo sull'effetto matrioska? Ma non posso saperlo, perché comunque io sono un po' Mercedes, un po' Svetlana, un po' tutto. Quindi pure tu sei un po' matrioska? Sono molto matrioska. C'è la matrioschezza che... Non ho ancora aggiunto i 30 anni io, e poi sono diventata matrioska. E no. Quindi che dire? Vabbè, tu hai figliato molto presto. Diciamo. Vabbè, a parte quello, però non mi pare che era quello il problema. Beh, quello contribuisce un pochino. Però praticamente... diciamo che pure 40 anni, dai. Se vabbè, serve. Comunque io, da quello che ho visto io, anche ragazze serbe, dopo una certa, se matrioschizzano. È proprio una cosa genetica dei slavi. So, guardi. La mia amica che è del Montenegro. Pure tu guardi, c'avevi Svetlana che ti scriveva una volta. Svetlana, Caterina, Natascia, Caterina, sì. Adesso sono tutte matrioske, quindi è stato uno dentro l'altro. Non te scrivono più, perché... sono uno dentro l'altro. Posso solo dire che quando sono andata in Russia a studiare, le ragazze dell'età mia russe erano delle fighe pazzesche. Infatti, questo è il problema delle slave, è che fino ai 20-25 anni sono delle fighe incredibili. E era pieno di italiani che se le venivano, dei ragazzi italiani che... Ma io mi ricordo sempre quando sono partito per la Lituania, mia madre mi mise dentro la valigia le calze. Ma erano per te però, mettete le calze, esatto. Che è meglio. Esatto. Rimorchi una cifra. Mettete le calze e mette in tappo. Comunque, Croazia io ci andrei. Sì. E l'andrei a visitare. Chi c'è stato di noi in Croazia? Sbano, tu ce l'hai stato? No. Non dai la mano. Non sei neanche stato in una Croazia, no? No, neanche in una croata. Cioè, nel senso. Niente, vabbè, allora niente, Pizzi, non possiamo parlarne. Allora vi leggo la seconda notizia. Però io volevo. A Crapina. A chi? Crapina. Cross dell'Italia. Vedi. Capirigna. Crapina. Si beve? Crapina, cittadina poco a nord della capitale Zagabria, si trova la più ricca collezione al mondo di resti dell'uomo di Neanderthal. Tutta roba paleontologica. Tutta roba nuova, insomma. Rinvenuta nelle grotte della zona. Da 2010 è possibile ammirarle esposte in un museo moderno, il Musei Krapinskin Neanderthalaka. Imperdibile se si passa da quelle parti. Imperdibile, però solo se si passa da quelle parti, esatto. Perché se stai un po' più lontano è un po' come il gomitolo di lana più grande del mondo. Ma c'è la spigna? Niente. Ma cioè tu devi fare un passaggio, quello si chiama passaggio, non si chiama lanciare. Quando io do la palla a un altro, gliela passo. Okay. Allora tu devi pensare che la palla è un po' come la cocaina. cioè la puoi, o come nello spinello, la puoi tirare, la puoi passare, ma non si lancia perché poi la gente si incazza. Quindi si fanno anche i lanci quando tu fai un lancio. La gente che si fa di cocaina è gente brutta, quindi io non la mica la moralista. No, no, è proprio brutta. Nel senso, secondo me è proprio brutta, nel senso che è brutta. È brutta. Brutta. Brutta. Non so come spiegarlo. Sai chi è Marta Kard? Ma quelli sono quelli che stanno strafatti. Marta Barzok. No. Marta Barzok invece, andiamo al discorso di prima, che è molto importante. Ancora. Perché praticamente è l'antagonista di quella di prima, che si chiamava Ivana, non mi ricordo. Ivana Granfre. Granfre. Granfre. Si chiama Granfre. Attenzione. Intanto il cane ti ha portato a copertina. Vabbè, quello oramai ci sono abituati. Che praticamente ha detto, oh, questa fa l'influencer agli europei con il zizio di fuori, lo faccio pure io. Però ci sarà un però. E quindi c'è una faida praticamente in corso. Chi c'è il zizio più bello? Non lo so, perché quella... vabbè, una è polacca e una è croata. Allora, innanzitutto la seconda... La sinistra è croata, la destra è polacca? Sì. Ah, chirurghi diversi. Polacca o polacca? No, devo dire che devo dire la croata è più anche caruccia. La croata quell'altra è proprio un mignottone. Dai, sì. Bisogna dire che è un po' un mignottone. Vabbè, ma adesso perché bella. Solo perché è polacca, insomma. Cioè tu ce l'hai coi polacchi. È da un po' di stasera che stai insultando i poloni anche un po'. Attenzione, perché loro poi dopo la Croazia è sempre di destra, come quello della Polonia. Non ne ho idea. Che dicevi, Sbano? No, fare attenzione perché poi i polacchi ci omaggerebbero con del polonio che potrebbe essere pericoloso. Non facciamoli arrabbiare, perché insomma io il tè vedi, c'è la pubblicità, non lo amo. Di tè polonio, che stanno in Germania. In Germania c'è la pubblicità di Lidl, esatto. Famoso supermercato in cui noi abbiamo praticamente saccheggiato tutta la Germania. Sì, dove volevamo buttare la monnezza fino a che tu hai detto che c'era la telecamera, che però in realtà era una lampada. Allora c'è Mister Zero che chiede i link delle faide. No, vuole proprio il zinnone. Sì. Quella OnlyFans credo che sia. Vabbè, lui perché adesso fa lo spavaldo perché sta in macchina e la signora quota rosa di Mister Zero, la signora Anna Maria, non starà ascoltando, ma altrimenti occhi tu, a terra. Ci vedi? Attenzione. Ci vedi? Sì, dobbiamo leggere questo. Perché c'è stato il sondaggio? Lo diciamo pure del sondaggio. Sì, giochiamo. Il momento è giunto. Tra poco, negli spogliatoi dello stadio, Sperletti farà il suo discorso motivazionale alla squadra. Vabbè, che è già successo. Cosa dirà? Allora, le domande erano: uomini forti, destini intermedi, partite importanti. Non mi ricordo cosa volevo dire. Scegliete i parastinchi della guerra. Si dia inizio alla destrutturazione. Sciogliete, anche scegliete. Vincere e vinceremo. Damogli una lezione a questi fottuti jugoslavi. Avrete preparato le valigie? Il 56% ha risposto: avete preparato le valigie. Perché noi siamo persone di poca fede, tutto sommato. Perché dice giustamente Basmano, c'è pure il rischio che invece, cioè, alla fine ci rimaniamo pure dentro a sto europeo. Ma sì, e considerando che dopo, se passiamo come secondi, giochiamo con la Svizzera, ci rischio pure che arriviamo ai quarti. Io penso c'è che c'è vicino di casa, che da qui si vede, c'è la bandiera dell'Italia ancora. Io penso che l'unica possibilità che abbiamo di uscire da questo mondiale stasera è di perdere miserabilmente. E neanche è detto, ripeto, perché poi dipende anche da cosa fa l'Albania con la Spagna, che voglio dire. Allora, però comunque c'è... se la Spagna è una squadra seria, comunque tirano dei pezzi, stanno demolendo casa, spacco bottiglia, ammazzo famiglia, esatto, perché c'è sempre, ecco, stanno spaccando le bottiglie per ammazzare le famiglie, attenzione, continuano, attenzione. Perché d'altronde si sono incontrati italiani e croati, insomma, mamma mia, cioè, allora io ho detto, io penso questi giocatori italiani che hanno speso migliaia e migliaia di euro per tatuarsi, ma almeno cercate di restare in campo più a lungo possibile. Ma che c'entra il tatuaggio col campo? Per ammortizzare. Si devono far vedere, hanno fatto i tatuaggi, fatevi vedere. Allora, insomma, io non so cosa. Non mi fate cacciare fuori. Però è vero, insomma, che oggi se non c'hai un tatuaggio non puoi giocare a pallone. Tra l'altro, Buffon. Donnarumma aveva parato tranquillamente, però il difensore voleva uccidere. Ma c'era il rischio di prendere un altro autogol come la volta scorsa, che alla fine è un concorso di colpa tra non mi ricordo chi e Donnarumma, che Comunque leggevo su, sentivo, ascoltavo su YouTube che pare che il kit, attenzione, errorino della Croazia, che però decidiamo di non fare niente. Sì, che torniamo verso la nostra brutto metà campo, approfittare, ma sì, cioè, perché se Italia, fair play, se Italia e Croazia pareggiano passano tutte e due, quindi secondo me Non ci stanno i supplementari. Ancora il girone. The little biscuit, come si dice? Sì, no, esatto. Ma come fanno a passare tutte e due? È come migliore terza. Entrambe? Beh, sì, perché lo scusa, l'Albania perde e va a 0 punti. Ok. E l'Italia passa con 4 loro giù. Ma quando è il momento del karaoke? Fra un po' arriva il momento. Abbiamo un calcio d'anchele, attenzione. Noi stiamo ancora al centrocampo. Abbiamo il team Mister Zero, così spegne la comunque radio. Gualdi, lo vuoi sapere qual è il pronostico di Bing di oggi? Sì, assolutamente. Pareggio, probabilità alta. Alta. Poi? Vittoria dell'Italia, probabilità media. Vittoria della Croazia, media. Media, esatto. Mi ricorda qualcosa. Stessa esatto. Cosa. E sappiamo com'è finita. Esatto, democrazia qui, proprio. Vabbè, cristiana. Tutto proprio sommato, cristiana. Io continuo a ripetere che se non lo facevamo noi il gol, loro non lo facevano. No, infatti, infatti abbiamo sempre segnato più dalla Spagna. Quindi mettici una pezza. Insomma. Esatto. Siamo stati più prolifici. C'è un calcio d'angolo per chi, Michele? C'è una notizia importante. Me coglioni, eh. Perché? Per chi è appassionato delle serie TV, non possiamo menzionare. Non menzionare. Perché menzionare aspetta, una Michele, delle aspetta, più Michele. Conosciute e famose che a livello internazionale. Sarebbe. C'è il calcio d'angolo. C'è calcio d'angolo, attenzione, mamma battuta mia. A merda, mamma come al solito. Mia, nemmeno un calcio d'angolo sappiamo battere. Ma che schifo, Dio, mega contropiede. Abbattete Modric, che tanto è vecchio. Bravo. Okay, vabbè, ok. Vai, che tu stai parecchio indietro comunque. Sì, comunque sto cercando di recuperarla. Basta fare fresh. A livello internazionale, ovvero il Trono di Spade. Diverse sono le location di questa indimenticabile serie, tutte sparse nei territori dell'Europa. Anche la Croazia che è praticamente la squadra dell'Otito, l'ha comprata da poco. La scelta degli sceneggiatori è proprio nel borgo di Dubrovnik, è possibile ripercorrere le strade di approdo del re. Diversi sono i tour che permettono agli appassionati della serie di ripercorrere i passi dei protagonisti e di visitare gli ambienti esterni e interni che hanno ospitato la sede del famoso trono tanto ambito dalle diverse casate del regno. Dubrovnik è però un borgo medievale ricco di cultura, all'interno del cui muro è possibile ripercorrere tutta la storia del paese. Non è quella di Shame. Comunque io dicevo il fatto che si è fatto molta critica sui kit sportivi, quindi le magliette di quasi tutte le squadre, e pare facciano schifo. Sì. Però, senza pare. Però quello della Croazia, col fatto che c'ha sta cosa un po' tipo da tovaglia, secondo me è la peggio. Devo dire la verità. Cioè, nel senso. Anzi, questa, essendo penso la seconda maglia della Croazia, è pure meno peggio. La prima. Lo so, ma la prima con gli scacchi bianchi e rossi in quel modo è proprio tovaglia da picnic. Questa almeno c'ha dei colori un po' tipo più. Il pranzo è servito. No, io invece stavo riflettendo sulla questione Croazia, no? Perché considerando che l'Otito ci ha sempre avuto anche una certa passione per tutto quello che era allenatori e calciatori provenienti dall'ex blocco slavo, no? E Croazia si potrebbe tipo fare. Beh, che ne so. Solo Tudor c'è stato. No, che ma è durato 3 mesi. No, ammazza, prima c'è stato Petkovic. Ma Petkovic è svizzero, però. Come svizzero? È svizzero. E come ha fatto? Ha comprato il passaporto. È la stessa cosa dei come coso lì. Beh, comunque anche Mihajlovic, cioè ce ne sono stati tanti di Mihajlovic era di San Marino. Cioè, voglio dire. Che tu indaghi. Di Monte Grappa. E Mihajlovic ora non ha fatto un tempo a diventare. No, però vabbè, io ti parlo anche del passato agonistico, insomma, la Lazio ha sempre avuto tanti giocatori. Sì, diciamo che non con l'Otito, in generale. Vabbè, sì, comunque, sì, dai. Cioè, Jugovic, Stankovic, Mortovic, Skacovic, Sminkiavic e via dicendo, insomma. No, comunque è vero su questo. Milinkovic, Savic, di recente. Milinkovic, Savic, Basic. Volete le mie notizie? No, però aspetta un attimo, che volevo vedere una cosa, perché io avevo raccolto delle curiosità che erano interessanti. E erano le stesse mie. Se avete usato Bing, sono le stesse. Queste sono con Gemini. Con Gemini. Gemini, che eccole qua, le curiosità. No, questa è l'analisi della partita, non ci interessa. Possiamo leggerla se vuoi. No, è troppo lunga, non ci frega niente. Però ci sono delle curiosità, vedi. Rivalità storica. Bestia nera, la Croazia è considerata. Ah, la Croazia era quella che si sono menati tutti lì a Genova. Erano croati? No, erano serbi. No, la Croazia è considerata una sorta di bestia nera per l'Italia, avendo un bilancio favorevole negli scontri diretti. Dal 1994 l'Italia non è mai riuscita a battere la Croazia. 0 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte. Una brutta storia. Nel mondiale 2014, statistica, prima o poi. Uno dei momenti più dolorosi per l'Italia fu la sconfitta contro la Croazia ai mondiali del 2014. Oh, mamma mia, no, vabbè, dai. Attenzione. Che contribuì all'eliminazione degli azzurri nella fase a gironi. Ditemi che sta simulando, vi prego. Vi prego, ditemi che sta simulando. Non lo so, c'è un morto. Ci vorrebbe un replay, vediamo un po', vediamo un po'. Oddio, poi si era un po' trascinato, però no, sta a fa un... Si è fatto... Vabbè, io non la sbatto addosso, cioè, ma non è che ha tirato i capelli, ha tirato i capelli. Ma no, ma non gli ha nemmeno tirato, cioè, no, no, gli ha tirato i capelli, vedi che lui fa i capelli, Senti, Gualdi, ma ci vuoi presentare l'artista della settimana? Non ancora. No, non è ancora il momento. Sei pronto. Non è ancora il momento, secondo me, ti ripeto, quando cominciamo un po' a affannarci, mandiamo la canzone. Ma siamo già affannati. Esatto. No. Allora fatemi cantare. No. Dopo diventiamo quello nel secondo tempo. Quando saremo tutti morti. Esatto, quando non saremo più in nove. L'altra settimana abbiamo messo Una vita da mediano, te la sei persa. Che canzone vuoi cantare dopo? Ma non cantiamo sempre La legge del gol? No, sì, no. Non è che ogni volta potremmo cantare. Decidete voi che canzone voglio cantare. Io vuoi l'inno brava. Della Roma? Vuoi l'inno della Roma? Ti metto l'inno della Roma. No, forza Roma, forza Lupi. Forza Roma, forza Lupi. Sono finiti i tempi cupi. Non credo che faccia così, però vabbè. Sì, come no? Era così, oh. Svano, tu che sei da Roma. Beh, l'intonazione non era esattamente quella. Adesso non mi ricordo. Però insomma, no, tra l'altro, i tempi cupi ho la sensazione che stanno pure per tornare. Perché ho come la sensazione che gli americani stanno. Se sono rotti al cazzo. Hanno, diciamo, hanno comprato una squadra in Inglesia. Quindi, secondo me, vogliono disingaggiare da Roma. Però, vabbè. Aspettiamo e vediamo. Beh, diciamo che non è che ce la possiamo prendere con gli americani. I soldi loro ci hanno messi, insomma. Beh, oddio. No. Avrebbero dovuto mettercene qualcuno più per fare uno stadio decente. Ma non no, vabbè, il problema dello stadio non è economico, esatto. È tutta la burocrazia che c'è allora, dietro. Lo si chiama mafia. Che i dalmata derivano dalla Croazia? No, dai, dalla Dalmazia. Attenzione, battaglione. Dalmata è una razza canina. Che Nel frattempo, anche Pizzi si è reso conto che Reteghi per una volta ha toccato un pallone. Secondo me non è stato anche lui. Stavolta erano così sincronizzati, stavolta no, niente devo fare. Ci posso far mica niente. Ma no, siamo sincronizzati. Veramente sono più belle le magliette della Croazia. L'occasione della vita, tra l'altro. Che non mi capirà mai più di provare a segnare. Ma il kit della Croazia a me non mi piace niente, ma non per cattiveria, anche solo perché sono croato. Il famoso kit è morto. Si dice divise le segnalatiche quelle dell'aeroporto. È morto. Sembrano le segnalatiche quelle dell'aeroporto. Esatto, ma chi è che sto rumore? Scusa, è Scozia che sta giocando con qualcosa. Mi sembra giusto. È proprio appropriato Scozia. No, sì, bravo, nascondi. È un po' insofferente la canetta questa sera. Vabbè, ma perché lei abbiamo un calcio d'angolo. Vediamo un po'. Potrebbe succedere. Allora, guarda, Michela, racconta il calcio d'angolo. Un altro calcio d'angolo. Guarda, vedi se stanno in spinte. Allora, se stanno a menà. Quindi, quando c'è sta il calcio d'angolo, se menano tutti. Sì. E quello ha perso la palla, cioè è scappato. Madonna via. Mia, magari. Cioè, non siamo capaci. Ha detto io non la tiro, lanciala tu. No, non è per quello, era un elemento di distrazione. Michele, visto che ti vedo ferrata sul calcio d'angolo, no? Quanti calci d'angolo a partita si possono battere? Ma da quello che ho visto, infiniti. Brava. Chiudiamo la trasmissione. Chiudiamo la trasmissione adesso, subito. Esatto. Perché da adesso in poi non ne azzeccherà più uno. Però vabbè, dai, sono molto, molto contento. Sono orgoglioso. Fa un altro che lancia calci d'angolo. Ma è una cosa buona. Perché succede il calcio d'angolo? Tu l'hai capito questo? Perché qualcuno fa il cattivo e quindi... Ti hai messo all'angolo, mi vai all'angolo. Vanno in calcio d'angolo. È giusto. Attenzione, si spingono. Semenano, c'è un altro calcio d'angolo dall'altro lato. La palla agli altri. C'è un altro calcio d'angolo, stavolta lancia sempre l'Italia. Lancia, si dice tira, lancia, non si lanciano. Conto che ti conviene guardarlo là. Sì, sì. siamo tutti in attesa di questo calcio d'angolo. Ci mamma mia, che schema. Mamma vabbè, mia. Almeno rispetto alla partita precedente stiamo tirando in porta, che mi sembra già una gran cosa. Poi che i risultati lascino il tempo che trovano. Vabbè, ma almeno se la stanno a giocare. Vabbè, se la stanno a giocare. Ma sto ragazzino ci avrà 20 anni praticamente. Vabbè, le tappe gioca in nazionale, sì, è sufficiente. Secondo te un calciatore quanti anni c'ha di media? Sembra tipo che c'ha 18 anni, però c'ha una faccia d'anziano. Cioè è molto anziano. Giovane, sì, sì. È il famoso giovane vecchio. Il giovane saggio. Vecchio. Sì, sì, sì. Il giovane vecchio. Pensa che quando guida la macchina si mette il cappello. È giusto. Io non l'ho capito. Ma sul perché punto. È pensionato. Oh, è il vecchio col cappello, Pizzi. Non sai chi è il vecchio col cappello. Il vecchio no, col cappello però... è quello che c'è domenica mattina e tu gli bestemmi contro. Esatto. Ma io bestemmi a prescindere, quindi non è che. Ah, attenzione, brutto. Intervento da dietro, sodomia. Ah, ammonizione. Primo cartellino giallo della partita per. Grazie. Per Sucic. Perché ricordiamoci sempre una cosa importante, che gli slavi alla fine sono sempre un po' facinorosi, ce l'hanno sta cosa bellica, belligerante, sono gente un po' arrabbiata, capito? Ma perché tutte queste illazioni? Vabbè, perché tre guerre mondiali sono scoppiate per colpa loro. Beh, diciamo che sì, non c'hanno un concetto del valore della vita umana un po' approssimativo, quindi insomma tendono a risolvere tutto con la violenza. Esatto, sul primo caso sono maneschi, sono gente maneschi. Attenzione, niente, perché il portiere... Che cazzo. Peccato, perché il portiere è uscito praticamente sulla tre quarti. A me è successo adesso. Comunque, guardi, stiamo al trentesimo, quindi la possiamo sentire la canzone. Sì, ma aspetta qualche minuto ancora. Cioè, che mi distraggo, mi devo trovare le notizie. Sei tranquillo. Io sai che sono eccitatissimo, non vedo l'ora, insomma. Comunque, questa è veramente la classica partita in cui te sbagli, de rimessa in contropiede e te fanno il culo. Ma no, meno male. Però poteva essere questo il caso. Vabbè, comunque ragazzi, non lo so. È sconfortante avere una nazionale di cui non sei un cazzo, no? Perché poi fondamentalmente il problema è anche questo. Non ne sei un cazzo perché la maggior parte... Ma perché fondamentalmente ce ne frega più niente. Una volta ci fregava, quando eri ragazzino ti ci appassionavi. Sì, è finito tutto l'entusiasmo. Io mi ricordo una cosa. Era che io conoscevo i giocatori dell'Italia... Tipo alla quello semifinale. Bono, quello Sorco. Alla semifinale però. Alla semifinale. Cioè tu c'hai tutto il tempo del torneo per impararne. No, non mi fregava niente. Poi dopo alla semifinale. Alla semifinale li sapevi tutti. Sì, sì. Okay, soprattutto quella del 2006. Però quanto era Bono Cabrini, vero? Beh, Cabrini 82, Elena, manco un anno. Cabrini, che c'avevo due anni, insomma, manco chi è. No, Cabrini un po' dopo, 82, 86, Messico 86. No, Cabrini. Stava... Cioè, sì, giocava anche nell'82. Io sì, mi ricordo la nazionale degli anni 90, che c'è? Erano veramente... Attenzione, Giannini. Mamma mia. Quindi ti ricordi Giannini, no? Nazionale. Giannini. Giancarlo Giannini. Giannini, mi ricordo Roberto Baggio. Il principe nazionale ci avrà giocato, 15 partite? Vabbè, però sono i mondiali 90 se è fatti. Sì, come tutti a merda, sì, però sì, dai. Insomma, non era non credo fosse titolare Giannini ai mondiali. Boh, non mi ricordo. Beh, poi c'erano Schillaci e Baggio che hanno fatto sfaceli. Anche quel vabbè, diciamo che la nazionale del 90 ci tirava, che era la stessa dell'Under 21 che aveva vinto gli europei, era forte quella, cioè, una bella squadra. Tirava insieme a Maradona Schillaci, ricordiamocelo, insomma, quindi. Attenzione, calcio d'angolo. No, aspetta mia. Oh, cazzo. Mamma mia, che se so magnare. È morto. Attenzione, è morto. Tiro in porta più bello è stato fatale. Il tiro è stato fatale. Negli ultimi 10 anni della nazionale. Bastoni, credo fosse. Comunque, se volete, vi racconto cosa mi è successo oggi dall'indiano. Che è successo dall'indiano? C'è stato un ragazzo che voleva attaccare un bottone. E quindi è stata una conversazione molto interessante sui mondiali. Tipo. Stasera gioca l'Italia. Gioca l'Italia. Angolo, sì. niente. Dopo un po', non so perché, a un certo punto dice: perché poi ci sono gli europei, ci stanno i croati, ma i croati che ne sanno? Mica gli importa ma era italiano o in Europa? Era italiano. Ma questo non era un attaccato a bottone, questo era uno scemo. Fuori. Poi mi fa, a certo punto fa, perché poi gli inglesi, pure gli inglesi gli piace il calcio, però non sono tanti bravi. E poi lì fa freddo. Mia madre, in questo paese c'è un problema genetico. Mia madre è andata in Inghilterra, a Londra, fa freddo a Londra, pure in Finlandia fa freddo.

sincerare, mi vorrei sincerare che non abbiamo sulla coscienza Mr. Zero dopo questo, questa perla musicale, perché me lo immagino sparito, che lì che si è assopito alla guida, poi a un certo punto il brano ha cambiato, cominciato a piottare. Ma infatti a questo gli penso ci arriva da facci casa, sapere se, che sei ancora dei nostri. Ho messo il turbo per arrivare a casa e non sto già dentro casa. E non ascoltarci più. No, ma poi la cosa bella è cioè gli scatta l'embolo a un certo punto la canzone. Però devo dire, faccio i complimenti a Gualdi che ovviamente diventa un produttore musicale, perché le variazioni di questa canzone sono veramente notevoli, insomma, incredibile, incredibile. Però le tematiche di queste tre canzoni che abbiamo sentito fino adesso... Oh, beh, il testo di questa canzone elogia un po' quella che è la Croazia, quindi con le montagne, le belle cose, i mari, i famosi mari croazie. Non bottiglia la quella, sono cose secondarie. Il mare croazie, che hai detto? Il mare, la Croazia, il mare croazio, famoso mare croazio. Sta già assimilando la lingua, capito? Esatto. Quindi va in vacanza quest'anno in Croazia, Mercedesi. Quindi è un tema molto bello, insomma, un bel testo. Non so se hai colto tutte quante le sfumature, perché purtroppo è in croato, è difficile capirlo proprio al 100%. Ma poi magari un giorno li intervistiamo questi artisti. Ma non lo so, spiegare. Sono molto timidi. Io soprattutto quello spagnolo. Quello spagnolo, sì, Orge è fantastico. Orge è uno che piace, parlare. Insomma. Esatto. Ma che fischia. Ma invece fischia questo con... gruppo com'è che si chiamava? Si chiamano Yara e Jaro Basitovic. Hai capito? Cioè, pure i genitori ci hanno avuto la fantasia con i nomi. Ma sono gemelli omozigoti. Comunque, nomi, cioè, il nostro Mr. Zero ci conferma che a un certo punto gli è venuto un infarto. Probabilmente chiederà i danni. A Yara, puoi chiedere a Yara. Speriamo che questo brano incassi tanto di sia. Se devi perché... chiedere i danni, accomodati. Poi non so quando ti verranno risarciti, però tu provaci. Ah, ma ecco perché non funzionava. Cioè, vabbè, niente, mi sono accorto adesso che c'era il mute su un canale, però va tutto bene, insomma. tutto a posto ragazzi. Mentre l'Italia rischia addirittura di segnare, ma ha detto no non siamo, vabbè, non allarghiamoci, insomma. Io vi dico che c'è l'accordo. Allora, l'altra volta vi abbiamo spiegato la tattica dell'Italia. Scusa, chiedo solo una cosa perché non mi è chiara. Ecco. L'Albania sta giocando adesso con la Spagna ora? Mm-mm. Quindi stanno aspettando? No, non ci sono partite in contemporanea. Sì, come no? 21 e 21. E quindi stanno aspettando di sapere qual è il risultato dell'altra partita. Fondamentalmente. Ma siamo sicuri? Sì, di questa cosa. Ma l'ultima partita di gironi deve essere obbligatoriamente in contemporanea. Perché... Per evitare i biscottoni. Esatto. Insomma. Che succedono ugualmente. Sempre, però vabbè, non puoi evitarle certe cose. Insomma, almeno ci provano. Una volta magari tenevi segregati, non dicevi niente a nessuno e potevi anche, però adesso con internet e cellulari, dai, possibile. Vabbè, comunque, quindi il primo tempo sarà così. La Spagna sta già vincendo 1-0 con l'Albania. E allora pareggio assicurato, raga, dai. Allora, Spagna-Albania 1-0, esatto. E quindi niente, praticamente in questo momento la Spagna passa come prima assoluta. E vabbè. E l'Italia è seconda e la Croazia è terza. Quindi insomma, in questo momento noi siamo passati. Però... La Croazia quanti punti ha? Cosa può succedere? La Croazia ha perso... Succede che perdiamo. Ah, intanto c'è un calcio c'è un d'angolo, okay, sempre per la Croazia, lo tira Modric. Vediamo un po' che succede, perché loro li tirano un pelino meglio di noi, ho notato, eh? Non in questo caso, seguono lo perché schemino. Perché so della scuola di Mihajlovic. Ma no! No. Mihajlovic non è croato. Era serbo. Però lui, c'era la scuola lui. Lui ha insegnato in tutta la Jugoslavia. Insegnava a suon di cazzotti, ovviamente. Esatto. La gente imparava però. Esatto. Guarda, mamma mia. Questa è l'unica occasione di tutta quanta l'europeo, praticamente. Guarda, vabbè. Qui il portiere è stato bravo, sì. La verità. Cioè, tu che cosa ne pensi? È stato bravo in un paio di occasioni. Ma perché il portiere la può prendere con le mani e gli altri giocatori no? Perché è portiere. Brava. No, oggi sta allora, Michele, qua ci stai stupendo. Allora. Portiamo il... A livello superiore. Okay. Spiegaci che cos'è il biscotto. Ah no, se ciao. Biscotto che cos'è? Dai, però ci puoi arrivare. Dai, la arriva il biscotto. No. Che cos'è? Ma come fai il biscottone a qualcuno? Che gli rompi le gambe. Gli rompi no. Le gambe. No, gli rompi le gambe. Marco, ma fate... lui l'ha portato fuori strada. Sì. Allora, non suggerire. Lo cucini il biscotto. Brava. Ma ci sei quasi. Quando tu hai cucinato un biscotto a un avversario, che gli hai fatto? Cioè, l'hai avvelenato. L'hai avvelenato. Fatto. Cioè, vabbè, tu perché c'hai questa... Da quando hai visto il Trono delle Spade il tuo mondo è cambiato. Esatto. Infatti quando noi siamo entrati nel famoso pub lì a Rennes, Sì, eravamo cosa? Tutti morti. Esatto. Ma infatti noi siamo morti quella sera. Esatto. Adesso stiamo vivendo una vita parallela. Quindi è Lost, è il purgatorio. Questo è il purgatorio. Pure Lost, è il nostro purgatorio. Esatto. Dovremmo fare per sempre dirette. Ma tu vedevi partite. L'albero azzurro? No, che quello era quello con Tonio Polonio. Allora era... io Cartonio, io era Polonio, io perché lei vedeva quello con gli avvelenatori, insomma. No, io ero praticamente davanti alla televisione a guardare. La televisione quando le Torri Gemelle sono crollate. Ma che bella, che bel ricordo, bello. Che bello, brava, bella televisione uguale terrorismo. In realtà la stava guardando bene. Mio figlio, ma mio figlio c'aveva un anno e mezzo, no, c'aveva due anni, c'aveva neanche due anni. E lei terrorizzato per sempre. Sì, infatti, proprio penso i traumi proprio. Ma quindi come sono cadute le Torri Gemelle? Per colpa del Polonio. Per colpa del biscotto. Della CIA. Per colpa del biscotto, per colpa del biscotto. Ma guardate che la Venevisione era un programma non poco fatto bene, cioè fatto veramente bene, perché comunque raccontava anche la violenza sessuale. Ah, dai, è vero. Questa, cioè, no, non è che lo racconta. C'è stata una puntata. C'è stata una puntata, insomma, che è passata la storia. Poi la televisione oggi sarebbe infattibile una cosa del genere. Cioè. È avanguardia. Filippo Turetta la guardava sempre, infatti. No, sì. Faceva il tifo per la mela, però. Certo. Modric, Luca Modric, il fenomeno, il campioncino che ormai c'ha 40 anni, però insomma. Mordor. Però una portata di roba su quelle spalle, Sta un po' languendo la cosa. Michela, vuoi darci un'altra notizia? Dai, notizia. Adesso sta scaricando il telefono. Mettilo in carica, Michela. Si chiama carica. No. Carica. No, ma lei è andata di là a metterlo in carica. Nel frattempo lo stavo usando, capito? Allora, vi volevo dire che il Dalmata è una razza canina già che ha trovato la sua fortuna con la storia della carica dei 101. Ma ce l'hai detto questo? Di cui esiste la versione YouPorn che si chiama... La carica sui 101. La carica non 101. La carica nel 101. A posto. Quindi poi vai avanti. Vabbè, ma se può fai. È così. Ma sono notizie anche questa. La Croazia è un paese dell'incredibile bellezza, ricca di terra incontaminato. Non a caso, diverse di queste sono state dichiarate dall'UNESCO patrimonio nazionale. Quasi il 10% della superficie del paese è patrimonio mondiale. Da parchi nazionali che preservano la flora e la fauna del territorio. Ho capito, come l'Abruzzo, insomma. Con la terra dei fuochi, uguale, stessa cosa. La Croazia come l'Abruzzo. Ma senza arrosticini. Bisogna stare attenti. Però scusami, Croazia, ma sti dalmati o dalmati, come c'è? Non lo so, sono andato. Vabbè, ok. A cosa devo fare attenzione in Croazia? Ai croati, ai croati. Spaccano bottiglie e ammazzano famiglie. Le truffe a danni dei bancomat. Fate attenzione a non scottarvi e visitate la città in estate. Se visitate la città in estate, evitate le guide turistiche non ufficiali troppo. Ah, bello, bello. Sembra l'Italia, sto tranquillo così, insomma, però vabbè. Che origine ha la lingua croata o il croato? I croati sono un gruppo etnico appartenente ai popoli slavi meridionali. Vabbè, quindi sono pure terroni. Terroni dei terroni slavi, infatti. Cosa che si compra merda bene in Croazia? Anelli, bracciali, monoli in argento. Monili. A mano. Gioielli prodotti in corallo, bruno rosso e persino piccole statuette rivestite con materiale pregiato. Che cazzo ci faccio? Vabbè. Sempre negli autogrill, come che è il luogo ideale per comprare queste cose. Bock è il saluto colloquiale per eccellenza. Bock. Bocca sorda. Corrispondente al ciao italiano. Infatti quando Jorge va in Croazia, bock madogno, è un saluto che si sente. Sì. Famosi per la cravatta. Ah, non è una bella cosa. La cravatta colombiana, però. Resa famosa nel la cravatta croata nel XVII secolo. Ah. La cravatta è oggi uno degli accessori di moda più riconoscibili al mondo, che ha anche una sua giornata ufficiale, il 18 ottobre. Ah, quindi i croati hanno inventato la cravatta. Bello, però. Che gente sono i croati? Ma non ce ne frega un cazzo, dai. Ma adesso. Insomma, cerchi, dopo. Allora, ai croati piace l'alcol, proprio questo è risaputo. Proprio, se a tu vai, non piace. Se tu vai su Wikipedia e metti, parlami un po' della, cioè su internet, parlami un po' dei croati, cioè, gli piace bere. E le barbabietole da zucchero. Le barbabietole da zucchero che utilizzano come per fare l'alcol. Ah, questo è interessante. Attenzione, c'è un contropiede. Ma anche no, ma fermiamoci. Chi ce lo fa fare? No. E torniamo indietro. E torniamo a bestemmiare in croato. Ad esempio, le parole Boga e Bogova, che poi più o meno simile alla, alla bestemmia russa, in croato rispettivamente genitivo singolare e plurale del nome Bog, ovvero Dio. E ora, perché questa guida ci dovrebbe avere il modo per bestemmia in nel croato? Nel vocabolario come presidi del croato, entrambi col significato di bestemmia. Ah, ok, vabbè, interessante. Però vedi la civiltà di un popolo, la vedi, dal fatto che hanno le bestemmie. Cioè, ci sono dei popoli che barbari che non ce l'hanno. Genericamente significa bestemmia? Cioè la parola croato stesso dice, Bog, cioè, significa Bob. È come se noi in Italia bestemmia. Bog vuol dire Dio. No, l'ha spiegato che è la declinazione della parola è Dio. È declinato perché c'è la declinazione come il russo, come il latino. E quindi come funziona? Quindi Boga e Bogova. Boga fuoco. Che deriva da Bog. Che sì, Dio. Ma che cosa significa? Cioè, diaccio. Bog è un dispregiativo. Bog a Borga, Borg a Borg a Borg a Borg a sarà per quindi per Dio, Dio così per Dio vabbè. Per Diana Diana Borg Bogova che è la moglie di Bogovo di Bogov è Bogov di Bogov di cioè Dio però cattivello Dio cattivello ok va bene. Non voglio dire la bestemmia però diciamo che Michele ha bestemmia, dobbiamo dire questa cosa. Quando mi fai arrabbiare sì. Allora, sempre colpa dei pizzi, insomma. Sempre colpa mia. Vabbè, comunque questa partita, nonostante l'Italia è più vivace rispetto un solo minuto di recupero. È perché pure l'abbio, secondo me, si è un po' rotto il cazzo. Che palle. C'è una notizia che potessi darci in questo momento, che sta languendo, sta venendo un po'. L'ultimo minuto, così poi dopo metto una canzoncina per la pausa. Intanto il nostro Mr. Zero è arrivato sano e salvo a casa e ne siamo lieti. Mi sta spingendo il cellulare tra 27 il cellulare. Niente, non posso dirvi notizia. Niente, se la inventiamo noi la notizia. Lo sapevi Michela che in Croazia c'è il si mangia lo snotoplok tukne? Ecco che fatto. È fatto. Non lo so. È tipo. È uno spino di merda. Ti piace lo spino di merda? Bello. Sbano, dai, facci la telecronaca in diretta di questi ultimi minuti. Ma viviamo tutti sul fischio dell'arbitro, che infatti è arrivato. Ok, benissimo. Vabbè, a questo punto io direi che bisogna. Bisogna un po' festeggiare la Croazia e andiamo a bere. Došli su u njene dvore da bi moju ljubav budili. Svitlo nek joj ljubi lice, lipo kao u cesarice, kad je ja ne mogu ljubiti. Zlatna mriža njenog tila dušu mi je uvatila, da je bacim nazad u more. Svake noći prije zore dolazim u njene dvore, bile more moje pokore. Života moje zlatna mriža njenog tila dušu mi je uvatila da je baci nazad u more. Svake noći prije zore dolazim u njene dvore, bile dvore moje pokore. Cilega života ja sam ti, ja samo nju, da do njenog srca veramente. Lui è Oliver Dragojevic, Oliver Onion, che praticamente è la versione Oliver Hutton. È un one man band, perché qua ci sono quattro pu in una sola persona. Esatto. Anche Riccardo Fogli, famo cinque. Diciamo che sì, ha preso molto ispirazione dai pu, in effetti. Secondo me c'è una causa anche da qualche secondo parte. Me sì, perché voglio dire, se Albano è riuscito a vincere una causa contro Michael Jackson per il plagio di Cigni di Bacala, questa sicuramente è tanta voglia di lei dei pu. Benissimo, allora mentre che attendiamo, scusate, ho bevuto la birra, mentre che attendiamo praticamente il secondo tempo e Michela sta caricando il telefonino, grazie al quale poi ci darà altre importanti notizie. Non è che lo stiamo proprio attendendo, nel senso che... Che cosa? Cioè, arriverà. Il secondo tempo, vabbè, diciamo, però deve... Attendo così, è solo perché è ineludibile, capito? Ma non è che ce ne frega qualcosa. È una cosa ineluttabile, deve succedere, quindi... Così possiamo andare a dormire. Beh, sempre lo spirito giusto di fare i programmi. Comunque vi faccio ascoltare un nuovo personaggio, un nuovo amico di Radio Anziano che ha voluto anche lui dire la sua, insomma, se volete. Uè, sono Capitan Senno di Poi, e allora, Simone? Oh, certo che al sud non fate proprio un cazzo, cioè avete buon tempo di guardarvi l'Italia, noi qua fatturiamo. Io sono in Milano Brianza e per l'appunto mi chiamo Capitan Senno di Poi perché il mio ruolo qual è? Di dire come sarebbero dovute andare le cose. Allora vi dico che Spalletti non avrebbe dovuto schierare Chiesa stasera, ma avrebbe dovuto mettere Baggio, Signori e Zola. Un saluto a tutti i camerati, mi raccomando, lavorate, e poi anche se l'Italia non vince, chi se ne frega, tanto ormai c'è la macro regione, la Lombardia, ma va laurate, ru! Però effettivamente Chiesa non l'ha schierato. Ma perché, infatti... C'è Redeghi, Ha dedotto, però Beppe Signori... Tra l'altro, non lo sapete, la questione di Beppe Signori mi è capitato proprio oggi, casualmente, tra i reel, no i reel, tra i short di YouTube, un canale che aveva fatto sentire una vecchia intervista di Berzot che blastava Enrico Sacchi perché metteva praticamente Beppe Signori come alla destra. Così che voglio dire, che usava Beppe Signori, lo usava come terzino alla destra, una cosa. Ma Sacchi non è mai stato normale, però vabbè. No, perché lui... io non ricordavo questa sovrapposizione di Berzotto ancora vivo a commentare questo non ricordavo. Esatto, sì. Infatti... Poi è morto. Sì. Ci sarà una correlazione tra le due cose? Esatto. E invece era vivo e poi è morto. E invece Enrico Sacchi è ancora vivo. No, che è morto dopo che ha fatto questa affermazione. Forse successivamente. O non vedeva l'ora di farlo. Però talmente cosa, tanto che... La poi cosa alla fine... bella di Enrico Sacchi è che a un certo punto ha capito. Ha detto, è meglio che non faccio l'allenatore. Perché se ci pensate, no, al di là del... Vabbè, il Milan... No, però lui non ha mai detto, ho sbagliato qui, ho sbagliato là. No, lui no, è... Però... sempre convinto che quello che lui ha fatto era giusto. Quindi però bisogna essere convinti. Tu dici no, perché col Milan ha vinto, ma con Van Basten, Rijkaard e Gullit, cioè, ha vinto molto più Capello che sì, no, ma a parte sì, in generale sì, sa chi ha vinto in quel momento. Poi è che era il sogno berlusconiano che iniziava, no? Arrivava lui, investiva, prendeva questo trio olandese fortissimo. Probabilmente se li avessi allenati io avrei vinto comunque. Sì, sì, ma poi era forte tutta la squadra. Allora, perché, comunque... Ma poi c'erano Baresi, c'era Maldini, cioè, c'era Costa Curta, c'era... Pietro Paolo Virdis. Pietro Paolo Virdis, vabbè, sì, un po'. Vabbè, dai, cioè, quell'insieme di squadra alla fine c'era Carletto Ancelotti, ragazzi. C'era sì. Donadoni, cioè, quanti ne vuoi? Ancelotti, tu te lo ricordi Ancelotti quando sì, giocava? Me lo ricordo, me lo ricordo. Quando giocava nella Roma? Scusate, Ancelotti, sì, me lo ricordo. Ok, e che cosa ha vinto nella Roma? Lo scudetto? Brava, vedi, stasera è incredibile, incredibile. Forse perché li stiamo un po' apparecchiando. Il doping. Io devo doping. Dire che sono stata veramente democristiana nel festeggiare gli scudetti. Cioè, tu hai festeggiato sia da Lazio che da Roma. Esatto, esatto. Sai che questa cosa potrebbe... Non è democristiana, è proprio infame, cioè nel senso uno o l'altra. Questa cosa non te rende onore e soprattutto qualcuno potrebbe venire a menarti anche. Addirittura entrambe le tifoserie, no, per non sbagliare. Sono dispiaciuti. No, certo, non lo sapevano. Non è che tu dici io sono da Roma, forza Lazio. Veramente a qualcuno gli ho anche detto. Vabbè, ma lì non ce ne fregava in casa. Erano tutti ubriachi. Sì. Ah, sei da Roma! Ah, brava, brava! Ma quindi te coglionavano anche, capito? Cioè, sì. Ti sei esposto a questo rischio. Io non l'avrei fatto, sappi che per il prossimo futuro, se dovesse succedere, io. No, ma non ci avrò più 20 anni. Non te conosco. Quindi non lo farò. Ma non vincerà più nessuno scudetto alla Lazio. Come la Roma. Se vince lo scudetto a giugno, festeggia, io non ci vado. Ma manco se mi paghi, insomma. No, per vincere un altro scudetto dovrebbe arrivare a Mustafa. Il cane Mustafa. Mustafa. E allora, quanto dura sta guardate i commenti, perché io non ho la no, non ce n'era, non ce n'era. Ci riguardo. Guarda, perché... l'unico che ci ascolta è Mister Zero, che adesso da quando sta a casa ha spento perché sa che potremmo spoilerare il fatto che no, in realtà prima stava a guardare le tette delle donne. Esatto. Si è complimentato per il brano dei Pooh, diciamo che è stalagna, però poi insomma, vabbè, probabilmente guarda, dopo ce n'è anche uno peggio, Beh. Ma dopo ci so io che canto. Che canzone vuoi cantare? Dimmelo, così allora cerco. Che canzone vogliamo cantare? Ma io nessuno, Michele, quindi fai tu. Ma io pensavo di cantare sempre gli 883, perché mi sembra che so gli unici. Se no posso cantare no, con Walter di no, se, ciao caro, ciao, buonanotte, ci devi rompere l'atmosfera, scusa. Ah, noi l'altra volta con Walter avevamo detto di mettere la canzone quella di De Gregori, però non mi ricordo. La classica la leva calcistica della classe, non si può cantare. Come però, di non aver paura, no, di tirare un calcio di rigore. No, è un capolavoro. Buracci. È un capolavoro. Vabbè, non la vuole distruggere. Ma sconde turpi tutto, quindi non è che. Appunto. Mi sento responsabile di una cosa del genere, per quello ho detto la dura delle leggi del collo. No, ci potresti cantare, che ne so, la sigla di Star Trek The Next Generation, diciamo, è strumentale, appunto. Così non canta. Vai, va. No, proprio la sigla della serie classica. Anche. Ecco. Poi comincia il cane dopo. No, esatto. Scozia si è svegliata, ha detto... No, allora, tu potresti cantare una canzone che non deturpa l'opera d'arte, che però sia attinente col calcio, perché sennò. Io due ne conosco, quella di Gregori no, non la canto. Gli anni del Grande Real, mettiamo quella, come si intitola la canzone? Gli anni d'oro del Grande Real. Mamma mia, già. E come si chiama quella? Walter, come si chiama? Tu che conosci gli 883? Aspetta, ci sto arrivando. Nord, sud, ovest, est. Gli anni. Ora la cerco, voi intanto preparatevi per questo incredibile secondo tempo dal quale Michela cosa ti aspetta? Ma non so, Spalletti si sta a mettere mani in testa. E nei capelli. Fa bestemmia e dice buca. Comunque continua ad avere sta giacca. Io quello che vorrei vedere è la schiena. Se oramai è quello il kit, sa, deve mettere la schiena. C'è scritto. Tutti. No, no, ma è la taglia pure che mi lascia perplesso. C'è una mezza, è una mezza taglia più alta, più grande. Non so perché, gli calza male. Ma probabilmente perché male. Quando comincia a bestemmiare, sai, essendo toscanaccio, gli calza male. Tutto il tempo a bestemmiare, si asciuga, sì, esatto, si sfibra, perde liquidi. E quindi, sì, perché vedi. Che sensazione. Perde bestemmie attraverso i liquidi. Così. In effetti, cioè, gli calza proprio malissimo sta. Sì. Sta giacca, non so perché, cioè, guardiamo questi tre che tutto sommato fanno schifo, però con quelle giacche sembrano, cioè, vestiti bene. Esseri umani? Vabbè, sì. Questi sono giornalisti, in realtà non si stanno neanche agitando. Invece lui, oltretutto, beh, giornalisti, c'era Dani là in mezzo, giornalisti. Vabbè, dai, a Dani oramai mi trova dappertutto. Ormai per dei giornalisti opinionisti. Opinionisti, forse un po' più telecronisti. Tanto suonano i Graxon. Forse ti conviene chiudere la finestra qui. È però... chiusa. Oh, Mister Zero che nel frattempo sta cenando, giustamente dice: oh, quando Michela canta ditemelo che spengo 5 minuti. Lo so, l'ha detto pure l'altra volta. No, ma poi voglio dire, anche perché gli mandi la cena di traverso, non si fa. Non è maleducazione, però. Vabbè, io faccio le telefonate minatorie alla moglie, dico: ma non ce l'hai il numero. Comunque è vergognoso il fatto che sì, cioè lui che alla fine già avrà 22 anni, si comporta e ti insulta così in malo modo, senza rispetto, come una donna più anziana. Cioè, è proprio brutta sta cosa. Ma c'ha 22 anni? Ma che ne so, c'avrà 23 anni, quanto c'ha? È giovane. Giovanissimo rispetto a noi altri. Ma mi insulta, ma... Ti insulta. Se detto, non mi vuole ascoltare, pazienza. No, per educazione, cortesia, anche per galanteria, ascolti. Noi ti ascoltiamo sempre. Che siamo costretti, però stiamo nella stessa stanza. Non è che ci avete molta scelta. Diciamo che per solidarietà dovresti ascoltare, insomma, perché siccome come i piloti degli Jäger si condivide il carico, così capito? Bisogna fare Jägermeister? No, Pizzi, non hai capito. Io non capisco. Forse il mio cellulare era una citazione di Pacific Rim che forse non avrei visto. No, ho visto anche al cinema. L'abbiamo visto al cinema, è vero, hai ragione. Cinema, però io non c'ero. Però tu prendi, io mi ricordo Pacific Rim. Grazie al cielo io non l'ho visto. Però voi eravate male, perché tra l'altro è pure un bel film. Cioè, d'azione, però è un bel film. Io devo dire che non era male, in effetti. È sempre Guillermo del Toro, insomma. Poi c'è sempre Saso, insomma, che mangia cose. Visto il botto, hai visto? No, però se era con Guglielmo del Toro, era con lui proprio. Lui era uno Jäger. Forse l'ho visto. Sai che ti dico? Mettete la cuffia. Però mi serve il testo. Ma quale testo? Ma improvvisa. Ma che fai? Non lo conosci a memoria. No. Ma sotto loro cantano? No. Bestemmiano direttamente proprio. Vai, sbarra, dai una mano. Storia stesso posto, stesso bar, stessa gente che dentro consuma, non lo so che faccio qui, esco un po' e vedo i fari dell'auto che mi guardano e sembrano chiedermi perché la cuffia è troppo alta. È grande, devi abbassare il microfono e alzare la cuffia. Rasmus, gli anni delle mezze compagni, tieni il motorino sempre in due. No, perché? Voi mi darpate le ali. Allora, attenzione, nel frattempo entra Frattesi e anche detto Erfratta. No, in realtà no, non ce l'ha. Erfratta era il pusher della settimana scorsa. Però non so al posto di chi. Va bene. Il posto di qualcuno è entrato sicuramente. Mario Passaggi. Se no li freghiamo già con 12. Non c'ho 12 se li culiamo. Mi dispiace, ma purtroppo non. Il pubblico non ti capisce, non è pronto. La prima puntata si è andata meglio. Ma perché queste cuffie sono altissime? È colpa delle cuffie. È sempre colpa delle cuffie. Sì, è vero, te confondono. Ma le cuffie devono essere alte. No, non così, devono ti essere confondono. Alte. No. Ti confondono, sì. Non è la mia puntata, è andata meglio perché comunque le cuffie erano decenti. È colpa delle cuffie. Vabbè, hai visto è colpa della lobby delle cuffie. Hai visto i tifosi della Croazia? No, sono vestiti con la tovaglia. No, è brutto, devo dire. È una sensazione brutta. Ho provato, devo dire. c'è stato un momento in cui hai fatto, hai fatto proprio venerdì andrò al concerto e canterò tutto il tempo. Meno male, guarda. Che concerto vai? Di Margherita Vicario. Ah, beh, una cosa nuova. Una cosa nuova. Bisogna ma ancora non t'hanno cacciato, no, lei smette di cantare, la prego. Si alza, Margherita Vicario. Io non inizio il concerto. Se quella non va se fuori, quella non se ne va. Comunque, non c'è il cartello, io non posso entrare con la foto di Michela. Io non posso cantare. Intanto è iniziato il secondo tempo, 45 minuti, Michela, per segnare il destino di questa, di questo europeo. Io vorrei intanto fare un piccolo appello a alle persone che stanno ascoltando, che magari c'è qualche vicino di casa. Non stavamo picchiando Michela, giuro. Ma non ti preoccupare, che qua si sentono cose che voi umani non potreste neanche immaginare. In effetti, questa non sarebbero manco. Noi intanto mettiamo le mani avanti, poi e non addosso. E non addosso. Che mi sentono cantare mentre pulisco, faccio cose, quindi ormai ci sono abituati tutti. Ma ad ogni un po' modo, come l'herpes, ormai dopo un po' ti abitui, insomma, ok, perfetto. Ma infatti lei quando fa tutte le cose a casa, se noi tiriamo fuori un cartello, nessuno è stato picchiato durante questo periodo, questa fase. Ah, attenzione, tentiamo il contropiè, vediamo che succede. Niente, ricordati che l'Albania sta vincendo. No, è sempre la Spagna che sta vincendo. La Spagna sta perdendo, per cui va bene così. Marco, sì, ce la puoi fare, la Spagna sta vincendo. Vabbè, non devo saperlo io. L'importante è che lo sanno loro, perché così si organizzano. E quindi, però possiamo dire che la Spagna sta vincendo sempre solo per questo streaming sito 1-0. Vabbè, sono sufficienti, È sufficiente fare un gol a partita, insomma. Nella porta giusta sarebbe meglio. Esatto, cioè. Vedi, c'è questa contropiede che secondo me a un certo punto fateci sto gol. Aspetta che adesso arretra. Bravo, è arretrato ancora un po' di più. Questo è libero comunque. No, vabbè, guarda che se vuoi puoi passare di qua, Un tiro veramente. Come ce l'hai? Ecco quello. Millimetrico, un tiro millimetrico di Stronzic. Cioè, sta palla col croato praticamente, sì. Come si chiama Stronzic questo? Strani. Secondo te i croati lo capiscono il russo? No, perché in realtà il croato c'ha le scritte in cirillico, dovrebbe? Non so, non c'ho idea. O il serbo, guarda, pure il francese c'è le scritte in italiano, però non ci capisco un cazzo. Quindi... No, l'alfabeto è cirillico. O il serbo, capito, però magari la lingua è diversa. Scusate la domanda, no? Visto che prima erano un unico popolo ed erano la Jugoslavia, sicuro che adesso serbi e croati parlino lingue diverse? Allora. Sì. Sì, che abbiano dialetti e lingue diverse, sicuro. Che, sì. che l'Unione aveva messo una lingua base, che, sicuramente. Però insomma, che lingua era la lingua base? Forse era il russo. Lo jugoslavo, però non so di quale. Forse era il serbo, sai che non lo so bene qual era la lingua. Sutalo! Ma su questa cosa mi documenterò. Anzi, lo vado a chiedere a Gemenai, che sicuramente ci dirà una cazzata. Però è per guadagnare tempo. Esatto, guadagnare tempo. Intanto, Michela, facci una telecronaca. Come se tu fossi un telecronista sportivo. Ma io non sono un telecronista. Ma tu prova, che ti frega. Ci stanno. Due coccodrilli ed un orango. Ci stanno questi che si stanno un po' a, tipo a mucchià, però si sono smucchiati. Adesso sono andati dove c'è il calcio dell'angolo e si sono menati e poi sono ritornati. Stanno cercando di tirare tutti sulla porta, che è la porta dell'Italia. Esattamente. E non riescono a levare diciamo la che c'è un mischione. Sì. Adesso la Croazia, perché adesso ci vorrebbe il più stronzo dei contropiede. A sapere, sì. Perché è che fa uscire la palla. Esatto. Gli ha detto vichingo che però l'ha portato fuori lontani dalla cosa. Andiamo bene comunque, tutto a posto. Durante l'esistenza della Jugoslavia, la situazione linguistica era piuttosto complessa. Ufficialmente, la lingua principale era il serbo-croato, una lingua pluricentrica con diverse varianti regionali. Okay, visto? Questa lingua era parlata. Praticamente, come dicevamo, in Jugoslavia ufficialmente veniva utilizzato il serbo-croato come lingua ufficiale. Quindi serbi e croati tendenzialmente hanno la stessa parlano lingua. La stessa no, lingua. Però, cioè, tendenzialmente hanno la stessa lingua. È abbastanza diversa da quello che ho visto adesso. Mannaggia, ma se io te dico no? Sì, però ci tengono comunque a ma certo che ci tengono, se sono fatti la guerra, come è caduta la Jugoslavia, cioè certo che ci tengono. E se sono fatti la guerra perché uno voleva parlare del serbo e l'altro il croato. Ma poi sono sfumature, cioè voglio dire... lo riconosce uno di Roma Sud da uno di Roma Nord, eppure parlano la stessa lingua, ma con inflessioni diverse. Beh, forse non è proprio lo stesso livello, però. Beh, dai, beh. Considera che però nella Jugoslavia c'è stava comunque il Montenegro, c'era pure l'amaro, ci stavano anche lingue di origine albanese. Comunque io sono stata in Montenegro. Montenegro. E è veramente bella. Monte di colore. Tutti Monte dicono di colore. Che è molto simile alla Croazia. Eh sì, beh, stanno le là. Le spiagge sono incredibilmente belle. In realtà il Montenegro belle. È un'ulteriore secessione della secessione, insomma. Quindi. Sono stata in questa casa di questa mia amica che adesso vive a New York. Ok. Che c'è a casa vuota, potrebbe anche prestarci. Si chiama la Magnata. I genitori vivono in Montenegro. Ma che cazzo vogliono fare in Montenegro? Sono abbastanza ricchi in Montenegro. Cioè. Nella proporzione del Montenegro e ci hanno ospitato in questa casa che sembrava tipo una che ne so una casa extra lusso vicinissima al mare e la cosa assurda è che io ci sono stata negli anni 2000 e veramente cioè, nel senso vedevi questi effetti, questo effetto ottico veramente brutto di magari passare su, cioè, attraverso le macerie, le vere e proprie macerie, e per andare in spiaggia. Beh, poi non era un effetto ottico, cioè la verità nel senso, però era veramente speciale, difficile guardare queste situazioni e non rimanere colpiti. Comunque, per tornare al Busilis della serata, che dovrebbe essere la partita, Mister Zero con un commento tecnico dice: continua a dire che Di Marco Terzino non si può guardare, e chi siamo noi per smentire, insomma? Ah, perché noi stiamo qua per guardare la partita, per commentare la partita. No, tranquilla, no. Comunque, cioè, stavo cercando di fare tutto e fargli fa sto go. Se dobbiamo commentare. Siamo entrati male. Mamma molto male. Mia, fallo di mano. Attenzione, in area di rigore. No. Fallo di mano, fallo da Villano. Il tocco c'è. Sì. Ce la stiamo per rischiare. Stiamo aspettando il VAR. Secondo me è rigore. Qua arriva rigore, ragazzi. Ma non credo, però. Secondo me ci inculano. Siamo già fottuti. Quello è. Hai allungato la mano in aria. Cazzo da fa. Secondo le regole è rigore. Ci potrebbe essere un profilo di involontarietà, però. Così, davanti alla faccia. L'arbitro sta a telefonare alla mamma. No, mamma. Mamma, che sta facendo l'arbitro in questo momento? Secondo me? Sta ascoltando il VAR. Gli dice. Il VAR. Lo va a vedere. Lo va a vedere. Non è mai un buon segno. Vedi, però sei stata brava. Sei stata brava. Dice: devi venire a vedere. E lui sta andando a vedere. Sono andato a vedere. E da qui potrà decidere il destino. Però di questa partita. È YouPorn. Attenzione, andiamo. C'è Simone. E c'è rigore. Allungata, e se non è l'autogol. Diciamo che è stato un gesto stupido. Perché abbiamo spento l'aria condizionata? Siamo in quattro qui dentro. Perché Walter, cioè... Prima avevo chiesto se si poteva spegnere un po', ma se lo puoi riaccendere. Attenzione. Attenzione. Sì, è rigore, credo sia. Ancora non l'ha detto. Ho visto un gesto della mano. Questo è proprio volontarissimo, tra l'altro. Manco di per sbaglio. Vabbè, quindi mandare a fanculo? Non è rigore. Ma stanno lì, eccoli. No, però non è rigore. Sta piazzando il pallone, però non è rigore, secondo però me. Però non è rigore. Ah, no, io ne so, stava indicato là, lui ha fatto così. No, ha detto andate via, andate a fanculo. È rigore, è calcio ho di rigore. Ho sentito un urlo. Noi siamo un po' indietro nella nostra ferite, perciò magari. Ma perché qui è pieno dei croati. Comunque, raga, lo sguardo dei Modric. No, lo sguardo dei Modric è. Ma quello è il meno, il discorso è che c'è proprio un'espressione. Gesù Cristo. C'è un'espressione proprio di panico e paura costante. Che fanno Gesù Cristo quando portano la Buffon ha detto: io mi metto già direttamente nella porta. Perché non si sa mai. Che è sempre Donnarumma, però. Ecco gli stelli di prima a cosa erano dovuti. Ho detto, raga, qualcosa deve essere successo. Perché noi che siamo indietro di circa un minuto rispetto alla diretta con lo streaming. Rispetto ai vicini di casa. Che io continuo a sostenere che c'è un accordo. Ma allora. Modric sto rigore l'ha tirato proprio de merda, ma Gesù Cristo ha detto che no. Però è vero pure che se lo tiri de merda il portiere si butta dall'altra parte, segni uguale, cioè. Ho capito. Ma mai se si sono messi d'accordo prima con un cenno. Ah, ecco, certo. Attenzione. L'hanno fatto. Niente. Bravi. Vabbè. Bravi. Ci siete riusciti. Bravi. Complimenti. Beh, diciamo che l'Italia nel primo tempo era partita bene. Sì, rispetto. Però proprio secondo me non ci stanno fisicamente, cioè proprio non sono in grado di reggere la partita. Ma è giusto così, ragazzi, è giusto così, giusto. Ma io se usciamo sono contento. Così, così potevo andare ai concerti, potevo andare alle ti dico la verità, se dovessimo in qualche modo con due sconfitte e una vittoria essere ripescati sarebbe scandaloso. Vabbè, se il regolamento lo prevede. No, lo so, però sarebbe proprio una cosa drammaticamente immeritata. Allora, diciamo che deve essere, è scandaloso il regolamento. Anche poi, perché finora noi abbiamo fatto un gol. Due, perché abbiamo vinto 2-1, sì. Tre gol. Tre gol, abbiamo fatto tre gol. Tecnicamente sì, sì, tre gol, mo vai a vedere. Sei delusa di questa cosa? Ma adesso vedrai che entra a chiesa. Entra a chiesa? E perdiamo 3-0. Ah, ok. No, delusa, no, ma io me l'aspettavo che succedesse. Ehi tu, delusa, attenta che chi troppo abusa rischia un po' di più. Se c'è lupo rischi tu. Ah, secondo me il rigore era di Ripete. Perché di Ripete? Perché diciamo che Donnarumma era abbondantemente fuori dalla linea. Era dentro la porta, diciamo, però. Vabbè, comunque in ogni caso abbiamo... Ed ecco il tifoso che si fa riconoscere col candelotto. Beh, ovviamente in maschera perché... No, perché puzza, quindi devi mettere... Io hanno puntata. A me non c'è invasione di campo. Per ora. Dai tempo al tempo. Perché devono invadere il campo? Perché dovrebbero invaderlo? Si sarà caricato. Donnarumma è un pelino incazzato. C'ha ragione, dice, ragazzi, io mi faccio un mazzo così a fare i rigori. Beh, buon gol del cazzo, dopo che ha parato rigore da cielo del culo. Io sono abbastanza comprensivo nei confronti di Donnarumma. Sì, sì, è l'unico quest'anno che sta a fare qualcosa. E che ci lascia basiti. Perché si vede che... Diciamo che tu un attaccante non lo puoi lasciare libero, cioè, solo dopo un tiro. Attenzione, entra Di Marco. No, esce Di Marco e entra Chiesa. Church incoming. Vabbè, d'altronde ci devi mettere un po' di qualità in attacco, perché sennò. Comunque è proprio questo il problema. Non è tanto la difesa che fa ride, è proprio che non c'avevo neanche le risorse in attacco. Insomma, quindi. Questa generazione calcistica è quella che è. È tosta. Infatti, bisognerebbe aspettare la prossima, secondo me. Perché... Cioè, 20 anni, quindi. No, beh, diciamo che l'under 19, l'under 17 e l'under 21 stanno andando abbastanza bene. Quindi, sai. Poi il problema è che i giocatori quando sono molto giovani poi si perdono un po' per strada, c'è anche sto rischio qua, insomma. Vabbè, sempre comunque gli calcio under, d'angolo per l'Italia. Gli va. Under non sono mai al 100% sicuri, insomma. No, niente, non è andata male. Ma sei tu che stai a mettere l'audio? No. No, è qualcosa di Google. Comunque. Qualcosa di Google. No, stavo vedendo un giochino all'interno del tabellone dei punteggi su. No, perché c'ho proprio un momento di scoramento, di infelicità, di tristezza, di umiliazione. Esagerato, dai. Ma alla fine sti cazzi, cioè nel senso. Sì. Ah, beh, oddio, c'è quella parte di me che comunque è ancora affezionata all'idea, no? Poi sì, beh, certo, uno comunque alla fine ci dispiace perché ricordiamo sempre che l'estate quando arrivavano, insomma, le belle giornate, si allungavano le giornate, ci sapevi, c'erano i mondiali, gli europei, le olimpiadi. Quella destra, Marco, la colonna destra, la differenza reti. A destra? Sì. Ma a sinistra? I gol segnati. PS? O i punti? Vabbè, ma l'ho perso, non mi ricordo. PS, points, forse tre punti. Sono tre punti? Eh? E tre punti, cioè, ma noi no. Eh sì, abbiamo vinto la partita. Ah, perché sono tre punti la vittoria. Certo. Andavo bene. Manco le basi del mestiere. Ma ne erano due una volta. Ma quando? Sono 30 anni che non fa, è più così. Ma io non so, non seguo il calcio. Ho capito, però, cioè, voglio dire, sta cosa dei due punti è un po'. Io ero rimasto un punto al pareggio e due punti alla vittoria, ragazzi. Cioè, io sono rimasto a quello. Credo che Italia 90 sia stato l'ultimo caso, credo, se non no, addirittura prima. Ma no, dai. Sì, Marco. Eh sì, sì, beh, i tre punti oramai saranno. Guarda, saranno almeno 20 anni sicuro. No, di più. Chiedi Copilot. Ma pure di più. Chiedi Copilot. Aspetta. Così voglio saperlo, insomma. Cioè. Ma io lo chiedo a Gemini. Attenzione, palla a me. No, niente. Che poi a me Spalletti mi sta pure sul cazzo, l'ho detto sempre, però. Ma perché? Cioè, Spalletti è uno che mi riesce a far sta simpatico Mancini, per darvi un'idea, Attenzione, abbiamo abbattuto, ma c'era regola del vantaggio. A questo punto, vabbè, il gioco si prosegue mazzolandosi a calcione allegramente, tant'è che a un certo punto l'arbitro è costretto a tirar fuori il cartellino giallo ed ha ammonito Modric, che d'altra parte insomma è l'uomo match al momento. In negativo e in positivo, La FIFA ha introdotto la regola dell'assegnazione di 3 punti in caso di vittoria nel 1995. Ah, 95, allora dopo uso 94 addirittura. Prima di allora la vittoria 2 punti e 1 punto per il pareggio e 0 per la sconfitta, va bene, però mi pare che in Inghilterra già la usavano la regola di 3 punti. Forse era locale, non so se si può. Sì, però ci sono delle. Mi ricordo anch'io che c'era un campionato che l'ha introdotto prima degli altri, e credo fosse la Premier League. Però in che anno non lo so. Non credo neanche sia ancora Premier League. No? Vediamo un po', ragazzi, vediamo un po' se ci scrolliamo di dosso questa vena di fancazzismo che ci contraddistingue da 3 partite. Ma stanno facendo il massimo, secondo me. Sì, ma secondo me non c'hanno proprio le risorse fisiche. Sì, sì, cioè, ma nemmeno. Perché comunque. Cioè, ma non è solo questa. La squadra. Ma anche le tecniche. Cioè, no, ma secondo me proprio non è. Insomma, il problema tecnico è pure correlato al fatto che se non c'hai l'energia, raga, quello che provi a fare ti viene sempre male. Cioè, c'è un cazzo da fare. Anche perché tu all'inizio spingevi, attaccavi, mo non lo so, ho capito, ma cos'è che ci ha impedito di avere una preparazione atletica adeguata? Cioè, alla fine, voglio dire, la prima competizione ad aver utilizzato ufficialmente 3 punti in caso di vittoria è la First Division inglese. La prima divisione, che quindi all'epoca era la Serie B? Nel 1981-82, madonna. Bah, pensa un po'. Però lo sapevo sta cosa, perché io mi ricordo che quando giocavo a Match Day sullo Spectrum e c'era il campionato inglese, c'erano i 3 punti. Vabbè, quindi... penso un po'. Tuttavia è importante notare che l'adozione di questa regola è stata graduale in tutto il resto del mondo, bla bla bla, perché bla c'è bla sempre bla. Il finale democristiano dell'intelligenza artificiale. Ad esempio in Italia è stata introdotta in via sperimentale nella serie C1 e serie C2 dalla stagione 93-94. Pensa un po'. Per arrivare in serie A e in serie B l'anno successivo. Beh, quindi dal 95 pure in Italia. Vabbè, parallelamente a dopo. Comunque 95 sono 30 anni. Eh sì. Quindi alla fine, Gualdi, ma dove vivi? Ma lei dove vive? In realtà ho smesso di seguire il calcio del 92 qui. Proprio, sono abbastanza proprio, giustificato. Proprio quell'anno lì. 92, fine delle scuole, fino al calcio. Quindi. Ah, beh, perché dice almeno c'avevi qualcosa da parlare con l'altri. Sì, sì. Ho capito. E vabbè. Pensa quanto mi interessava. No, ma io te capisco, tutto sommato. Poi c'è tutti, vinto qua, ha fatto, c'è il gol, c'è quest'altro, c'è il brubico, c'è bianchi, c'è rossi, ma me ne pegava un cazzo. Cioè. Arbitro cornuto poi soprattutto. Perché arbitro cornuto? Che ne so, c'è sempre arbitro cornuto, ma giusto? Ma poverino, eppure dove è st'arbitro? Cioè. Abbiamo salutato la signora moglie dell'arbitro, inizia puntata. Questo arbitro, io mi ricorderò per sempre la partita che ho visto con l'arbitro Moreno. Voi ricordate? Parlavamo l'altra volta, sì. Come fai a dimenticartelo, considerando che è stato arrestato per narcotraffico anni dopo? Ma queste cose non sono correlate. Stavo preparando un esame e stavo a casa della mia amica. E quindi qualche. Ma tu a casa tua non ci stai mai, amiche? Sempre a casa di qualche amica tua. Perché non sopporta pizzi, capito? Quindi sei arrivato. Ante litteram. Io anche esistevo. E fa, ma già non lo sopportavo. Quando c'avevo l'esame, il giorno dopo io andavo a studiare. Queste amiche mie che abitavano presente sotto casa dell'università. E studiavamo tutta la notte e magari ci sì, ma si dice così stavamo più svegli e quindi pensavo dico forse questa cosa che ho fumato è un po' troppo forte, sto sognando questa partita, invece no, quello è uno scandalo, vabbè. Non so chi l'ha raccontato che dice che avevano già capito com'era l'andazzo solo quando sono andati a salutare gli arbitri, che insomma di solito si salutano, e lì praticamente lui si è girato dall'altra parte e non l'ha manco salutati. Ah sì? Sì, ma si era capito. Un po' fair play da morì. Ma vabbè, ma che fair play? Quello era un corrotto, cioè. Ho capito. Per essere corrotto, che fai? Saluti alle persone che ti stai per... non devi da adito, cioè è chiaro che se parti così già mi stai facendo capire che sei corrotto, invece devi cercare di far finta di niente. Sì, tanto no? Tu non potevi fare niente, cioè nel senso ci dovevi stare. Quindi tanto se abbiamo perso ormai non siamo agli ottavi di finale. Non è detto. Anche se perdiamo. Anche se perdiamo. Però aspetta, vedi, con l'accelerazione. Perché poi in realtà stanno cercando di far di tutto per passare la palla agli altri, non per tirare. No, ma si vede proprio da come trottano, capito? Che non c'hanno la forza proprio. Beh, io direi che a questo punto c'hanno le gambe spezzate. Io se già ne avessero prima, adesso gli è finita completamente la forza. Beh, certo, mo te via la cagarella. Cioè, torni a casa e te massacrano. Mamma mia, vabbè. Torni a casa e te fai le vacanze lunghe. Sì. Cosa che non avessi potuto fare. Cioè, lavori un mese in meno. Tanto non te pagano, te frega. E Spalletti? Spalletti va da Treio. Quello dello stupido cavallo. Esatto. Sai, Michela, che sta per uscire La storia infinita. Ma non sì, si sa, so. Non si sa se è vero. No, si no, sa, no, è vero, è vero, lo so. Lo come so, non si sa se è vero? È vero o no? Non lo so. È vero, è vero. Ma ci sarà lo stupido cavallo? Ci sarà lo stupido cavallo, c'è il Fortuna Drago che è LGBTQIAYZ più. Perché ovviamente ci deve stare qualche però, cosa. Madonna, che tristezza. Cioè, deve stare qualche cosa. Ci deve stare qualche cosa. E se no, la principessa bambina non la possono fare LGBTQ. Perché quella è. Fattene la ragione, su. Nonno Giuseppe. Pazienza, sti cazzi. Allora, dopo che non. Scusa, perché la principessa bambina non la può. La regina bambina non la possono fare. Che se no la posso fare la regina bambina. Dove ha mai espresso? La regina bambina. Per ora non ha mai espresso. Però. Eccolo! No, ma chi? No, Sesimo. Eccolo. Ecco. Eccoli. Il reboot della storia infinita è la lavorazione con Lane Canning ed Emily Sherman di Siso Film alla produzione, sebbene i dettagli sulla trama e la data di uscita siano ancora scarsi. Sarà quello. È roba Disney, no? I produttori hanno assicurato che il film rimarrà. No, sì. Il film no, si parlava di una serie prodotta da Disney, ma poi è stata pure mezza smentita. Non so, lo sappuccio. Rimarrà fedele allo spirito dell'originale, aggiungendo nuovi elementi per sorprendere e coinvolgere il moderno. LGBT, come fa posto. Gli uomini di pietra gay. Così. Vabbè. Le sensibilità sono cambiate dagli anni 80. Comunque, tanto a me, devo dire la verità, mi ha fatto schifo il film originale. Sì, è vero. Quindi non penso di andare a vedere mai il film modificato, insomma. Guarda, ti faccio vedere la storia del film, ma che schifo questo film. No, faceva schifo. Posso dire che faceva schifo? Il film io non l'ho mai visto da ragazzino perché ho sempre avuto delle brutte sensazioni. Tu lo devi vedere da ragazzino. Ma no, perché avevo delle brutte sensazioni che sono state motivate. Cioè, dal fatto Francesco che... Totti ha inviato un video in diretta. Vediamo, senti che dice. Dai, sentiamo che dice. Afrogi! Cosa del genere. Se ci stavo io qua, spaccato il culo a tutti. Gli faccio il cucchiaio. Intanto ennesimo calcio d'angolo che già sappiamo. Boh, ma come cazzo. Non sta più in diretta Francesco Dotto. Te prebesse mia e poi ha nominato. È entrato in diretta e poi ha proprio se menà, ma cioè parliamo di quel povero Baggio. Di quel povero Baggio gli sono buccati dentro casa. Gli hanno zottato 500.000 euro di roba e poi hanno pure menato, cioè no, vabbè. Gli hanno menato? Beh, in realtà perché lui ha cercato lì per lì di reagire perché c'erano i figli, eccetera, quindi gli hanno dato il classico colpo sulla nuca o sulla fronte con il calcio della pistola. Per fortuna che erano professionisti, quindi, perché sennò sparavano, quindi lo hanno fatto star zitto semplicemente colpendolo con la pistola. Quindi è andato anche bene perché se beccavano quello un po' meno col sangue freddo. Vabbè, è andato bene, Marco. Questi sono boccati dentro casa. Hanno colpito, sì, sì, hanno rubato, certo. Cioè, ti sto dicendo che se avesse fatto resistenza con uno con un po' meno sangue freddo, probabilmente gli partiva il colpo, non il calcio. Insomma, quindi, quindi tutto sommato, quando stai in quelle situazioni con 5 contro 1 armati, che poi dei calcio Baggio ne ci dovrebbe capire. Esatto, un calcio dalla pistola, però insomma più o meno è quello, insomma dovrebbero un po' dargli delle informazioni in merito. Noi attacchiamo a casaccio, sutalo, ma almeno attacchiamo. Beh sì mi sembra un passo avanti. Ci voleva il gol per risvegliarsi, ma oramai è troppo tardi secondo me, Michele, perché secondo te vabbè il 69esimo dai. 69esimo quanto siamo andati a dormire? No, non ancora. Ecco Michele, che cos'è la zona Cesarini? Che ne so io, prova, cerca su Google. E niente, a questo punto, vabbè, non potevi fare l'unplane. Niente, cioè, ci sei caduta sull'ultima domanda. Sei caduta sulla vecchia storia della Cadrega, però. Le dico io che cos'è la zona Cesarini, perché invece di chiedere a Bing, chiedo a Google. A Google, che tanto più o meno è sempre la stessa roba, eh. Allora, Cesarini, quello della zona Cesarini, proprio lui. Proprio lui, proprio lui. L'espressione zona Cesarini è usata per indicare i minuti conclusivi e di recupero in un evento sportivo, in particolare nel calcio. Per metonimia, l'espressione è usata anche nel linguaggio comune in Italia per indicare fatti avvenuti o situazioni in cui si è posto rimedio in extremis. La mia vita, praticamente. Quindi ridi la parole tue, che cos'è la zona Cesarini? Quando a chi ti... chi tira una botta soluzione. E tiri la palla quando fai il biscotto, quando chitti una soluzione all'ultimo momento. Sì, no, quando sono gli ultimi minuti della partita, dove può succedere, se tu segni all'ultimo minuto si dice proprio in zona Cesarini. Ma dire, perché? Perché lui ha segnato negli ultimi minuti della partita. Era solito segnare. Spiega bene, se no si arrabbiano. No, non è spiegato perché Cesarini, bisogna spiegare. E Cesarini. Poi è diventata la zona Caisedo, tra l'altro. Vabbè, beh, capito. È rigore questo? No, ma è come se lo fosse. Hanno deciso che si allontaneranno tutti dal pallone. È rigore dall'altra parte. Guarda, un uomo distrutto. Spalletti è distrutto. Cioè, guarda, sfatto. È completamente... Beh, come... lui ci credeva. È per come è vestito anche. Poi tu devi considerare che per un arrogante come lui dover ammettere di aver perso la seconda partita di seguito è... Ma Pizzi, dover c'è stato allenatore simpatico. Dover ammettere di aver... No, allenatori simpatici ci campionato sono, di merda. Ce ne sono pochi, veramente. Quindi sono tutti stronzi alla fine, quindi... Forse deve essere così proprio. Beh, tutti stronzi no, nel senso assoluto, però... Cioè, per esempio Ancelotti non è mai stato uno stronzo, neanche Coso, là, quello... che ha allenato il Cagliari, quello da Roma lì, come si chiama? Mazzone? No, no, vabbè, no, che Mazzone. Pure Mazzone non era. Vabbè, era simpatico Mazzone. Oddio mio. Hai capito, insomma, no? Sì, certo che ho capito. Che è stato pure che ha vinto lo scudetto con Westworld. Adesso arriva. Ranieri, bravo. Cioè, quello di perdere l'amore, certo. Sì. Comunque, vediamo questa posizione. Attenzione, niente, boom. Niente. Però, in generale, gli allenatori, se tu consideri anche l'allenatore, quello da Atalanta, ma Gasperini. Gli piace in coccolone, cioè, lì dove si trova. In generale, sì, però, certo, gli allenatori hanno anche un ruolo specifico, insomma, devono Allegri, un po' tenere distanze. Allegri. Vabbè, i toscani c'hanno proprio sto problema. Che io credo che l'unico allenatore toscano che mi sia mai stato simpatico è Sarri. Ma pure Sarri. Vabbè, c'ha tanti difetti. Culo, però cioè, senso... rispetto ad altri, insomma, mi fa un po' più. Però sì, gli allenatori toscani, tutti se lì. Oddio, Prandelli pure era toscano. È toscano? No, Prandelli non lo so se era toscano. Boh, comunque. Comunque, i toscani hanno rovinato l'Italia. Hanno rovinato l'Italia. Questo lo sappiamo. Lippi pure era lucchese, è lucchese. Cioè, tra l'altro, questa cosa dei toscani, Leo Varghion stamattina ci ha fatto la puntata. Gli Emiliano eravamo assolutamente d'accordo. Assolutamente sì. Noi ormai facci un sunto. Ci siamo chiesti. Noi odiamo i toscani. Ci siamo chiesti più volte che ci siamo venuti a fare. Esatto. E adesso non ci che se non fosse più. Il fatto che il turismo gli casca addosso, fosse per loro morirebbero di fame. Infatti, insomma, Noi non ci andiamo più in Toscana. Punto, basta. Questo è uno spot per tutti quelli che vorrebbero andare in Toscana. Non c'è annate. Ah, non c'è pericolo. Non c'hai la pericola? No. Guardi, fai la telecronaca. A questo momento dei giocatori vestiti di blu si passano la palla uno con l'altro. Sono molto contenti, gioviali, hanno il sorriso sulla bocca e cercano continuamente di trovare il proprio avversario vestito di bianco-rosso, un po' distratto per poterlo sbeffeggiare. In questo momento però si vede gente che corre molto lentamente, vediamo, invece adesso ci sono dei primi piani. La palla è passata con a quelli biancorossi. I biancorossi fanno accapocciare sulla palla, ma adesso i blu, che sono bianco, nero, al borgo rosso, che sono casualmente anche gli italiani, ma è soltanto un caso, hanno la palla a bordo campo, ma sulla porta in giro. Ha deciso che Trentino ha dato vaffanculo, con un moto di stizza lo lascia ad un altro. Un tizio vestito di giallo invece fa vedere un cartellone dove probabilmente ci sono degli indirizzi internet per un sito porno, ed entra un giocatore, scamacca, Scamacca, già il nome ci fa capire che è uno del profondo nord, probabilmente un veneto, e questo non ha nessuna importanza, però a noi piace ricordarlo. Beh, Scamacca è, insomma, è burino del Lazio, burino lo dice lei. Ma in questo momento l'Italia sta avanzando con dei tiri molto flebili da una parte questa all'altra. Questa cosa dei tiri ricorda un po' Michela, esatto, no? Ma non lanciano, loro tirano passaggi, prendi la te, no, prendi la te, tira te, no, tira te, ma no, tira te, sei più bravo in questo momento, qualcuno liscia la palla, tira te. L'arbitro, questo tizio visto di giallo, alza la mano e dice qualcosa tipo Ave Cesare, ma non siamo molto convinti. Sì, con la sinistra, però. La sinistra, facendo. Perché lui è un nazi comunista. Questo è la frontiera, quando i due estremi sono talmente estremi che si uniscono. No, in Italia esistevano i gruppi nazi-maoisti. Perché non rifarli, insomma. Adesso c'è un tizio vestito di arancione, è bello questo colore, cioè questi colori buttati lì a casaccio, mi piacciono. Sai, molto che rimessa lunga, Madonna, oh, davvero? Esatto, direttamente in fallo laterale. È vero che i palloni oggi i palloni di una volta, però... Perché hanno deciso di alleggerire i palloni? Parliamone. Beh, per rendere il calcio più spettacolare. Ah, e beh, potrebbero mettere le carte come nel King Soccer, no, allora, la Kings League. Si tratta di essere più leggeri, un pochino sì, ma in realtà sono i materiali con cui sono composti, anche la forma che è sempre, è la sfericità sempre più perfetta, che offrono meno resistenza all'aria rispetto a prima, ma come peso più o meno ci siamo. Ah, dai, qualche grammo di meno, dai. Poi lo riempiono con fiato di bovino, con la barra leggero, no, il bovino leggero, famoso. Lo riempiono con la borra che non è, fa schiuma. Però è bello vedere anche l'Italia che risponde al gol che ha beccato così a freddo con il possesso palla della propria metà campo. Che e la quante speranze ci sono che pareggiamo? Zero. Addirittura. Contropiede che non funziona. Ma è perché bello. Leggo i commenti su Facebook, sì, dei boomer, che non sono quelli io. Quelli che ne però sanno. C'è questa azione che scrivono che praticamente noi il 4 ci porta sfiga. E così. E quindi vi dico soltanto questo dovrebbe l'arbitro essere. L'arbitro continua a essere nazi comunista. Uno dei miei superiori al lavoro. Chi è? Vabbè. Ma questo qui vecchio che sta per morire a fianco a Spalletti. 24 giugno 2010, eliminati dal mondiale. 24 giugno 2014, eliminati dal mondiale. Non è un caso. Ultime 8 partite con la... Coincidenze io non credo. Esatto. Ultime 8 partite con la Croazia, 5 sconfitte e 3 pareggi. Al di là della cabala, una delle peggiori nazionali mai viste. 24 giugno 2024, puntini. E comunque la Croazia ci ha sempre messo al culo. E questo bisogna riconoscerlo, Evidentemente ci sono delle cose che vanno oltre la statistica, come speravamo io e Walter, insomma. Ma la statistica ha il suo effetto. L'arbitro in questo preciso momento ha estratto un cartellino, si appunta, ha fatto questo, è uno stronzo. C'è scritto sopra proprio questo, così Pongracic. Esatto, lo ha appuntato sul suo cartellino dove mette praticamente gli insulti che dice ai giocatori, i soprannomi, ci metti i soprannomi, che stronzolo, buffolo, rompolo, queste cose qua. Di nuovo questo possesso di palla nel campo italiano, che è Pizzi, è vero, è diciamo l'inizio di ogni Madonna azione santa. Da gol, parte dalla propria metà campo, no, giusto? Proprio, ragazzi, dal basso. Sapete qual è il punto? Che i giocatori proprio non c'hanno, non si intendono tra loro, cioè proprio non c'è... Perché ci sono troppi stranieri in campo, non riescono a parlare tra di loro, capisci? Che è il motivo per cui noi il nostro campionato non vale più niente. Bisogna dare anche un po' adito al generale Vannacci e ai suoi adepti, ragione, perché non si sa mai di questi adepti, insomma, quindi sempre per meglio farsi gli amici, insomma. Che si ma sa mai se svegli. Faccio amici, non me ne frega niente. No, te fregherà quel giorno in cui finirai dentro un ghetto ma insieme ad altra frega? Gente col vestito ma a strisce. Pazienza. No, te fregherà, pazienza. Certo, senti, certo. Io dato che dobbiamo, insomma, siamo qui, ci prendiamo un attimo per riposare la gola, ci ascoltiamo una cantante che è molto famosa in Croazia, ma il resto del mondo non sa chi sia. Jole Vaiolo? No. Si chiama Vlukovic Severina. Severina. Che è una donna, Kvades, Fran, Vieli. È una canzone, secondo me deve essere una palla sta canzone. Mamma mia. Almeno per far passare 3-4 minuti così, insomma. Nel frattempo magari famo gol. Porco. još čuvam stare slike, pa navratim kad zaboli, ne plače se iz navike, drugčije je kad se voli. Odavno već pjesme nema, ne čuje se riječ dobrote, otišli smo predaleko od ljubavi, od ljepote. Questa parla del botte comunque. Allora, mancano 10 minuti alla fine di questa partita. Può ancora succedere di tutto, perché secondo me i croati se la stanno a sentir calla. Stanno lì, quando escono fanno i cambi, se battono le mani. Ci sta l'arbitro che sta chiamando. Sarà chiedere i soldi, vedi probabilmente. Vedi qui adesso. Ah, una alla volta li stanno di tutti i croati, eh. Eh beh, perché giustamente loro in questo momento hanno solo una tattica. Stanis la Rochelle. Stanis. Che non l'ho neanche toccato, perché tra l'altro non l'ho proprio toccato. Però va bene, noi siamo contenti che venga ammonito un avversario. L'Italia ha sempre questo gioco che si è dimostrato essere molto efficace, cioè a partire dalla difesa. Funziona dal basso, sempre. dal basso. Il calcio moderno si parte dal basso. Esatto, soprattutto quando c'è dei giocatori che sono atleticamente superiori come gli italiani, che dove possono permettersi di fare avanti e indietro per 90 minuti. Ma ragazzi, non lo so, io boh, non so. Raccontaci una barzelletta, Walter. Ma poi questi croati mi sembrano pure, cioè, drogati. Statue rispetto agli italiani. Sono alti 2 metri. Fisicamente. Gli italiani storicamente sono sempre stati un po' deficitari. Come però. Quando giocavi contro l'URSS, se giocavi con questi cristoni. Sì, però voglio dire. Non è che dici arbitro, questi sono cristoni, non vale. Però normalmente ci piavano gli schiaffi, però. Sì. Vabbè, perché erano completamente privi di tecnica. Come quindi. Noi oggi. Esatto. Le cose cambiano poi col tempo. Sì, sì, è strano, ci siamo involuti, nel senso che. Attenzione, no, mamma niente, mia, un pallone e mezzo, manco per sbaglio. Cioè, proprio dalla parte della tre quarti che in su, che proprio deficitiamo tantissimo. E anche perché comunque, cioè, vuoi dire, nel senso, se ci avessi avuto un attacco decente, un paio di gol avevi fatti. Sì, assolutamente. Ma dirò di più, guarda, voglio andare oltre questa tua affermazione. Se adesso ce ne fanno un altro loro. E dire se avesse avuto un attacco. Bravo. Ecco, questo bravo, secondo sono me. Sono d'accordo. Sei amareggiata, Michele? Ti dispiace? No, almeno. No. No, così possiamo andare a cena fuori, ai concerti. Ma possiamo andare lo stesso a cena fuori? No, però prima bisogna controllare. Ma c'è la partita, non c'è la partita. Tanto ci siamo già organizzati per domenica, quindi. Fa niente. Andiamo al ristorante croato. Direi che non è il caso. E gli sputiamo su tutti i piatti. E poi ci rimaniamo. Non oppure ci sputano loro, perché ma sicuro lo farebbero sicuramente. Fallo. Stanno a mettere sul fisico i croati, stanno a mettere sul fisico perché hanno capito, insomma, che possono fare. Va bene, Michela, io dico ti libero. Ah, bene. Ti libero, no, tanto a questo punto puoi andare a dormire. Tanto non te vedo che cioè, No, ma non ti preoccupare. Adesso è anche un contropiede terribile che fortunatamente i nostri amici croati sbagliano. Però stiamo non sempre mica tanto. Aspetta un po'. In attacco. Palla, anche perché è più importante tenere gol. Palla piuttosto che fare gol. Fisicamente fanno gol. Magari che ne sai. Vattene del là. Magari sposti sbilanci il mondo. Spostando un l'asse da. Esatto, leggermente quel piccolissimo. No, lasciaci. No, so, Walter deve decidere perché vabbè, lui ci sta proprio sotto. Vabbè, tanto ormai è roba di 5 minuti. E niente, io vorrei avere qualcosa. Giocare, pensavo che stavano fermi. No, guarda, vorrei avere qualcosa di utile da raccontare. No, veramente. La barzelletta, hai detto, bisogna raccontare le barzellette quando è così. C'era un italiano, un croato e un olandese. L'olandese faceva l'arbitro. Esatto. Il croato faceva come l'italiano sappia under culo. Esatto. E fino alla barzelletta. Esatto. E fa pure ride. Tutto sommato fa pure ride. Bello, bel passaggio, bello. La convinzione proprio dei nostri uomini in area. No, non c'è la testa, secondo me non c'è la personalità anche. Te dico anche questo. Ma ragazzi, perché noi a volte abbiamo sopperito. Il giocatore la vedi appunto dall'atteggiamento, oltre che dalla forza fisica e dalla tecnica. Ma qui abbiamo gente che sarebbe degna della Serie C, ma non è PSC. Diciamo che la Juve ha rovinato il calcio, diciamoci la verità. Colpa dei Toscani e della Juve. Da Juve, esatto. Per tante ragioni, insomma, perché purtroppo ha dato importanza a tanti giocatori che. Vabbè, ma se ne vanno a fare la loro Super Mega League lì, come cazzo si chiama? Spero che ci vadano il più presto possibile. No, ancora non si sa. Quindi non potranno. Attenzione! Mai... Potrebbe essere degna, quasi no. Gol, no. Ma... Beh, però ci siamo andati vicini, eh. Però non è abbastanza, Pizzi. Non ti danno i punti per vicino. No, e non era neanche tanto vicino. No, siamo andati vicini. Sì, no, l'azione era senso, costruita benino. Cioè, però. Comunque ti è rigore comunque. No, ma te tutto sta. Ma è rigore, è rigore. Tu grida sempre rigore. Che è un modo, insomma, Spalletti sta umanamente. Mi dispiace per questi ragazzi che veramente, ripeto, hanno speso interi stipendi per fare questi tatuaggi. Non potranno mostrarli ulteriormente. La domanda è: beh, mo li mostreranno nudi Spalletti sulle spiagge dopo questo europeo. Se ne va? Che ne so io. Anche quando è arrivato Spalletti? Un anno fa nemmeno. Sì, non credo che se ne vanno. Beh, sarebbe un bel gesto. Beh, in teoria il ciclo sarebbe europei mondiali. In teoria. Però dice basta perdere anche mondiali. È vero pure che le risorse sono quelle che so, cioè nel senso. Allora lì dipende se c'è. Lui se a un certo punto dice: raga, il problema si è fa che... questo coso. Posso realmente fare qualcosa? Il problema in è che con io. Queste risorse rischi di bucare il prossimo mondiale per l'ennesima volta e non esci bene. Infatti, la domanda che si fa Spalletti è: posso fare qualcosa io? Esatto, sì. Vabbè, ma questo se lo deve chiedere qualsiasi allenatore. Adesso, beh, allora, con e poi tu non puoi andare l'Italia agli europei senza convocare Lautaro dopo tutti i gol che ha fatto, cioè nel senso medagliano Lautaro? No, sa di che c'entra là? Però io l'avevi convocato, allora anche Brozovic, cioè. magari non se ne accorgeva che invece è stato dall'altra parte, pure Brozovic, però vabbè, Brozovic purtroppo già ce l'aveva la squadra. Comunque devo dire che il famoso blocco Inter in questo europeo ha fatto molto cilecca. Strano. Beh, perché l'Inter è stata molto aiutata dagli arbitri. L'Inter is the new Juve. Da un bel po' però, E dopo aver detto tutte queste cose che ci renderanno simpatici agli interisti e agli juventini, c'è un'altra azione della Croazia che però purtroppo per la Croazia è nulla di fatto. Questi, capito? A me mi ha dato fastidio perché il gol che abbiamo preso è proprio un gol del cazzo. Sì. Cioè, è quello che mi dà fastidio. Secondo voi quanti minuti di recupero verranno dati? 4-5 sicuro. No, questi arbitri sono di manica stretta. Vabbè, ma c'è il regolamento, parla chiaro. Sono 30 secondi a sostituzione. Due minuti. Basta. No, se hanno fatto 5 sostituzioni. 2 minuti e mezzo. Dai, sono comunque 3 minuti e mezzo, pure 4 secondo me. Lo stiamo per scoprire. Spero solo che stia per finire un'agonia. Vabbè, tanto sono 2 minuti e mezzo, sono 4 minuti, cambia poco fondamentalmente. Oddio, bisogna anche. Pensa se pareggiassero e dovessero fare pure i supplementari. Non li fanno i supplementari. È quello che ti sto dicendo. Pensa se dovessero fare pure i supplementari. Vabbè, ma se pareggi un po'. Tutto sommato, alla fine finisce comunque la partita. Però se tu pareggi psicologicamente. Cambia già, sì. Sì, capito? Sei più motivato, no? Dice, cazzo, l'ho ripresa, dai, ce la possiamo fare, no? Per noi, cioè il fatto che finisca 1-1, 1-0, cioè cambia poco, sempre 4 minuti di recupero. Ah, sì, ma sì, ma infatti bisogna vedere. Insomma, poi ricordate sempre che c'è il campionato olimpico quest'anno, quello delle Paralimpiadi, dove noi vinceremo tantissimo, credo. Proprio vedendo come stiamo messi, però ci vanno quelli da 8 minuti. 8 minuti è fantastico. Te l'ho detto, vabbè, ma è una tendenza oggi. Vabbè, ma i mortacci vostri, cioè. Allora fai una cosa, spegnila un po' l'aria, perché. No, perché comunque alla fine tu mi dai 3 punti invece di 2 punti, 8 minuti di recupero, ma che non è più calcio questo. Infatti. Ma che è? Che gioco è questo? Madonna, che entrataccia. Eh sì. Ma prende appunti, questo lo chiamo sgombolo. Ecco, sgombolo. Il numero 7 è sgombolo. Dai, sgombolo se ne va a casa, però. No. No, è giallo. È giallo, dai. Non ho visto. È bravo. No, però posso dire che è veramente inutile fare i falli del genere. Capisco che questi sono proprio di cultura, sono così, perché è così. Però non c'è proprio senso. Per far vedere che sono maschi, alfa, capito? Tra l'altro ci hai alzato pure la gamba, secondo me era d'espulsione sto fallo. Infatti, ma io sto vedendo che gli arbitri sono abbastanza indulgenti, non ho visto espulsioni. Indulgono. Almeno nelle partite che abbiamo seguito. Indulgono nel peccato. Indulgono. Mamma mia. Però stiamo dominando adesso. Sono gli 8 minuti di dominio. Il dominio assoluto in cui non più importanti della storia del calcio italiano. Mamma stiamo mia, ruminando. Il portiere si è cagato addosso. Vediamo che infatti, mamma mia, guarda come trema, guarda. Sai chi ci voleva? C'era Balotelli, gli tirava da centrocampo e si levava la maglietta, faceva poi gli sputava addosso. Spacca bottiglia, basta a famiglia. Te. Calcio d'angolo. Sbano, raccontaci il calcio d'angolo. Appena ce lo fanno vedere. Esatto. Allora, battuta come sempre. No, stavolta, ma non ti so neanche dire. A parte che ovviamente la Croazia era tutta nella loro area. Non c'era modo di muovere un passo. Quello fa parte del gioco. Eradicato un giocatore, ma va bene. Poi anche tra gli in faccia con uno con gli scarpini a sto punto. No, vabbè, ma c'è sta che era ammonito. Però ha fatto l'unica cosa che è sensata da fare in quel momento. Almeno sì. Gli ha dato una spinta. Non, buffone, ricordate? Secondo me lui ha portato fortuna. Porco de qua, porco de là. La faccia di quello che ha scommesso un risultato diverso. No, secondo me lui ha scommesso contro l'Italia. Sì, ma ha scommesso su 2-0. Quindi sta rosicando perché no, 2-0, porco demonio, ma dovevo accontentare 1-0. Sta pensando quello che ha perso, insomma. Comunque, sempre queste battute becere. Sul fatto che lui scommette. Una persona ha commesso un solo errore in tutta la sua vita. Almeno due, ricordiamoci, vabbè, le famose flebo, poi non l'hanno mai punito. Però. Ma non era una scommessa. Era un errore, comunque, era una cosa illegale. Le flebo era più roba di Cannavaro, però. Sì, ma un po' tutte si facevano. Ma erano flebo di Il problema di è che su sta storia della Juve hanno chiuso. Cioè, nonostante che l'hanno segata, comunque. No, vabbè, le flebo le faceva il Parma, Sì, ma pure la Juve facevano quando Cannavaro poi è arrivato dopo alla Juve, tutti quanti se facevano, anzi l'hanno proprio portato, dice guarda, perché poi loro non sapevano neanche che cazzo me, erano pure contenti, capito? Cioè sì, tu guarda Vialli, Mihajlovic, tutta sta gente che sta a morire come le mosche, no? Sicuramente è un caso, però lo dicono sempre, soprattutto negli anni 70-80 se buttavano dentro le vene roba che non sapevano veramente di che colore era, cioè. È tutto molto bello, nessuno è diventato un supereroe. L'arbitro è diventato il vigile urbano, indica il traffico a destra e a sinistra. La Madonna, ma questi che stanno a fare? Cioè, Carla Fracci proprio, cioè. sono saltati gli schemi, Pizzi, sono saltati gli schemi. E adesso... una volta che ti viene male la rovesciata, allora fai la sceneggiata. Da rovesciata a sceneggiata, nato. Sono saltati gli schermi. Secondo me segnano. Beh, guarda, almeno sarebbe... cioè, la metto 2-0, basta. Almeno hanno sancito il valore della loro vittoria, dici. Certo, hai ragione. Potremmo chiudere pure in anticipo. Anche per Buffon, ricordiamolo. Bambino Buffone. Eh sì, bambino Buffone. Cioè, quella scommessa su 2-0 che gli è rimasta qua. Ma io fa, mister, fammi entrare. Ma dove mettere? In attacco. Esatto. Beh, guarda. Comunque fa bel numero. Inutile ma bello. C'è anche il rischio, insomma, che alla fine fa pure figura meglio. Eccoli, no. Tra l'altro, qui secondo me mancano un Pirlo, un Del Piero e anche un Gattuso. Te dico tanto, perché cioè, non è tanto la qualità tecnica di Gattuso, ma sicuramente l'impatto psicologico, no? Perché è questo che manca. Ma c'è un leader in questa nazionale, secondo te? Ma c'è un Lidl in questa nazionale. C'è un Lidl. Intanto, comunque, un minimo di fermento in chat, perché per esempio Andrew diceva: ma posso fare un pronostico? Vai. Beh, sentiti libero. E Mister Zero giustamente dice: immaginate se ci danno un rigore lo deve calciare Jorginho. Secondo me non glielo fanno, lo fanno dire direttamente a cosa? A Donnarumma. Sì, Donnarumma, sì. Dai. Questi mo si buttano per terra ogni 2x3. No, vabbè, l'arbitro ammonisce, il problema è che si sono saltati. Allora, diciamo che un arbitro che incomincia a tirare fuori cartellina rotta di collo vuol dire che ha perso il polso della situazione, match. Esatto. Cioè, no, ma su questi che si stanno a meno veramente come Fabbri negli ultimi minuti, voglio dire. Che poi lì il fallo gli ha fatto, il croato o l'italiano? Hanno ammonito Fagioli, quindi suppongo Fagioli. Sì, però hai visto il replay? No. Perché poi alla fine è il croato che mette la zampa tra le zampe dell'italiano. Le zampe, perché ricordiamo insomma che... certo... questi frangenti diventano zampe. Zampe. Quando inizi a giocare come uno zamparo diventano zampe. De zampognar. De zampognar. Ragazzi, Gol! Attenzione, c'è qualcuno che ci ha detto in anteprima, sì, che si è segnato. Eh sì, perché si sente anche l'esultanza, quindi. Quindi vediamo questa azione che sta. 6:37, zona Cesarini. No, non era quella parte. Dall'altra parte il gol. No, dall'altra parte. Che succede? Non di là, no. Io sento i Boati, no. No. Ha segnato l'Italia, perché sento dei boati incredibili, ragazzi. Ho capito, ma sarebbe dovuto succedere già un paio di minuti. Noi siamo fa. Tipo 2 minuti e mezzo in ritardo, praticamente. Cioè, non so cosa stia succedendo. Questa è l'azione. Questa è l'azione. Ma faccio e dico: chi ha segnato? Eccola. Ah, grande cazzo. Cazzo, la Madonna. E questo è un golasso, però. Questo è il gol del Piero. Questo è il gol del Piero ai mondiali, quelli in Germania. Zaccagni, ricordatela sta cosa in vita tua, perché non la rifarei mai più. Io ti consiglio di ucciderti. No, io vi ricordo che domani lo titolo vende a 40 milioni. Cioè, come minimo, insomma. Allora, siccome che sono curati che piangono, mi sa che sta fuori, grazie. Può essere che sta cosa cambia tutto, sicuramente. Al settimo minuto, altro che zona Cesarini. zona Zaccagni? Zona Zaccagni, sì. Allora, ho fatto un gol della Madonna, diciamo la verità. E domani ci abbiamo 50 milioni in cassa. Scusate, io la dovete pure dal mio punto di vista. Non è detto, Pizzi, perché Plutito potrebbe aspirare a chiederne di più. Anche sì, lui non. Però insomma. È una scommessa. Te devo dire che alla fine, per come stavano a mena sti stronzi, sono pure contento. Vabbè, ma noi diciamo, ci abbiamo creduto. Guarda che culo che gli ci abbiamo creduto fino alla fine. Comunque, gli ha detto culo, perché se quel pallone non si girava. Andava. Grazie. Il gioco sta tutto là. Comunque, noi ci abbiamo creduto fino alla fine. Ci abbiamo creso fino abbiamo alla sempre fine. Detto che l'Italia, insomma, avrebbe potuto pareggiare in qualsiasi momento. Comunque, è veramente il gol del Piero che ha fatto. Cazzo ho fatto, porco di noi. Più o meno questa è stata anche la sua. Guarda, Spalletti che non ci crede. Cioè, dove vai, Spalletti? Ma perché corre come un handicappato, Spalletti? Scusate, vuoi una risposta? È per colpa del vestito, Pizzi. Esatto. Ok, vabbè, facciamo. Devi andare, ma te lo dico io. Che è successo? Credo sia finito. Così. Sì, a 9 minuti e 02:03 e continua, è finita. Gente che piagne perché giustamente, ma attenzione che c'ha il durello anche lui. col cazzo dritto, vabbè. No, mi sa che la Croazia la faccia di Donnarumma, cioè che palle, avevo prenotato le vacanze. Mi sa che la Croazia non la sta vivendo bene questa cosa, no, diciamo, mi sa proprio di no. Quindi l'Italia sicuramente passa, perché con 4 punti passa. E poi non so il destino della Croazia, che mi sa che sto proprio. Mi sa che è stato un mezzo a merda. Ma lo sai, però, che ti dicevo. Allora, quando dicevo, poi se vincevano, se lo meritavano, ok. Però quando tu ancora mancano 10 minuti e quando fai sostituzioni, vi battete le mani, tutti che va, sentite già galla che avete vinto. Nel gioco del calcio queste cose non si fanno, perché il calcio è stronzo, non c'è niente da fare. Alla fine è Italia, tanto la scritta dietro Spalletti che è bellissima, insomma. Vabbè, molto probabilmente ci vediamo sabato, quindi. Porco mondo. Cioè, davvero. Ma contro la Svizzera può essere pure che, boh, chissà. Allora, la Svizzera non è malaccio come nazionale, però certo, secondo me la Croazia è più forte da quel punto di vista. E quindi ce la vediamo e ci vediamo sabato alle ore 18 prima, quindi 17:50, per assistere a questi ottavi di finale. Ma del campionato. Oh, questo c'ha le convulsioni, non sta a piangere. Cioè. È perché mi sa che hanno preso un biscottone. L'hanno preso loro il biscottone. È un dato certo e ufficiale che giocheremo sabato e da verificare. Allora, sabato c'è Svizzera contro seconda del gruppo B. Quindi siamo noi. Sì, mi sa proprio di sì. Però poi verificheremo e seguite i gruppi di Runtime Radio, diretta Runtime. La reazione dei croati, direi di sì. Esatto. Detto questo, io ringrazio Walter Sbano. Ciao cari, buonanotte. Salutiamo anche gli amici in chat, ci hanno fatto compagnia, perché a un certo punto la chat si è popolata, è vero? Ovviamente c'era Mr. Zero, c'era Andrew, poi c'era Michela, che ovviamente è passata al lato scuro della chat. La miglior vita. La miglior vita, infatti, esatto. Sì. E diciamo anche che ringraziamo RaiPlay, perché insomma un minuto e mezzo di lag sono tanti. Infatti RaiPlay proprio dice il numero, si sta a vedere RaiPlay, la partita. RaiPlay, esatto. Da me Simone Pizzi è tutto, grazie e ci vediamo alla prossima settimana. Anzi no, sabato. Ma no. L'ansia ora è il mio motore. Tiro fuori il bandierone in cantina da 4 anni. Va attaccato sul balcone, spero di non fare danni. Ma se devo essere sincero, io del calcio sono una sega. Da domani mister vero, fino ad oggi non mi frega. Ma se devo essere sincero, io del calcio sono una sega. Da domani mi servirò, fino ad oggi non mi frega. Non conosco il fuorigioco, non parliamo dei rigori e del vario ne so poco, ma che so i supplementari. We'll be right back. all'ascolto. Ludi